Buonasera. Una breve premessa prima dell'inizio dell'episodio. Nella rubrica Giochi giocati vengono fatti degli spoiler sia su Bioshock 2 che su Dante's Inferno. Di quest'ultimo, peraltro, viene raccontato il finale. Per sapere esattamente il momento in cui vengono citati gli spoiler, vi rimando alla pagina di questo episodio sul nostro blog ufficiale, ovvero il tentacoloviola.splinter.com. Si comunica inoltre che alcuni imprevisti tecnico-organizzativi non hanno permesso di avere il tempo necessario per affrontare tutte le usuali rubriche. Il consiglio del tentacolo è stato quindi quasi del tutto cancellato. Ma ora è tempo di iniziare. Vi lascio al sesto episodio del Tentacolo Viola. Ciao a tutti e benvenuti al sesto episodio del podcast del Tentacolo Viola. Oggi insieme ai soliti tre, ovvero il sottoscritto Davide Moretto, Gianluigi Briguglio, ciao, e Andrea Maderna, ciao, abbiamo con noi l'uomo che se trovasse Michael Bay per la strada lo tirerebbe sotto con la macchina, l'unico che si è fatto fotografare apposta dalla Google Car, colui che raggiungerebbe il Nirvana per un gioco di ping pong a cavallo, direttamente da singleplayercoop.com e Rincast, il siculo svedese Ferruccio Cinque Mani. Ciao Ferruccio. Ciao amici. Com'è? È un piacere essere ospite da voi. Bravo, bravo. E qua sono già i 10 euro che ti dovevo. No, sembro un coglione dopo appena due secondi, incredibile. No, più che altro ho finito di ascoltarti oggi pomeriggio su Rincast, quindi sto diventando deficiente, a forza di sentire sempre la tua voce. Comunque, visto che noi facciamo sempre questa piccola introduzione, se hai voglia di dire un po' chi sei, cosa fai, dove vivi, perché se per caso ci fosse qualcuno che non ascolta Rincast e ascolta il Tentacolo, cosa più unica che rara, insomma, vai. Che gente senza gusti. No, allora, sono veramente simpatico. Sì, come hai detto tu, vengo dalla Sicilia, nasco siciliano e divento svedese. No, sono un giornalista, no. Lavoro nel campo del marketing, ho scritto per varie riviste di videogiochi per parecchi anni, da quando ho 18 anni, e bazzico più o meno nell'ambiente di The First Place, quindi riviste collegate adesso, a questo spazio virtuale. Da 6 mesi più o meno ho aperto il blog Single Player Coop, che gestisco assieme al grande Pierre, che nessuno ne... E diciamolo perché... No, che è davvero un bravo ragazzo. Il blog che è sempre più bello, soprattutto. Il blog che è uno dei, graficamente uno dei più belli, credo, mai visti. No, sul serio. No, vabbè. E poi nulla, conduco assieme a Gatsu e Vito Juvara Rincast da un paio d'anni. Bene. Tutto qui? Sì. Tra l'altro sono un giornalista e mi occupo di marketing, è sempre una cosa agghiacciante da sentire, ma diffusissima in realtà, quindi. Faccio medicina. No, ma mi sono laureato in giornalismo, ho capito che non ci potevo campare e quindi, insomma, cambiato paese. Se non occupandoci di marketing, ufficialmente o meno. Sì, in realtà sono una prostituta, questo è il marketing è prostituzione intellettuale. Quindi, un po' come tutti noi, diciamo, insomma. Siamo tutti un po' puttane. Esatto, ma ci piace anche a volte. Forse parlate per voi. Devi ancora crescere, caro. No, ma Gianluca è puro e studente. Diciamo sì. Tutti questa cosa qua, perché... Scusa Gianluigi, dicevo è puro e studente e senza una lira, quindi... Minchia, veramente, per una idea. Ma è l'onore, scusa. E come sempre direi di rompere il ghiaccio, come dice sempre Gianluigi, perché diciamo ghiaccio noi a Tentacolo, a Ferruccio, con qualche simpatica domanda che ci siamo preparati a sua insaputa, ovviamente. No, questa non è l'intervista col Papa, sia chiaro. Ok. E inizio io, cosa dite? Sì, anche perché sì, come sì. Al solito sarai l'unico che ha delle domande interessanti. Allora, e come al solito ho la domanda meta podcast, ovvero, caro Ferruccio, questa è la domanda alla Raffaella Carrà. Attenzione, ci devi dire il miglior pregio e il peggior difetto dei tuoi compagni di viaggio di Rincast, ovvero Gatsu e Vito. Allora, il miglior pregio di Gatsu è che è una miniera di idee, c'ha sempre qualcosa in mente. Il peggior difetto è che in fondo è un fighetto del cazzo. Cioè, lui sta lì col suo iPhone, gli piace farsi vedere col suo iPhone, c'ha gli occhiali quelli un po' da hipster, c'ha un po' quest'aria così, va ai concerti alternativi, vabbè, pazienza. Vito Iuvara, il miglior pregio è che è uno che ne sa tantissimo, è una persona molto intelligente, il peggior difetto è che è un ciccione del cazzo. Ma non è più ciccione. No, è tornato ciccione. Ah. L'hai vista l'ultima puntata del corso? Sì, una volta era decisamente XXXL. Adesso è molto... Penso che debba essere ciccione per contratto, per fare quel... Sì, in effetti corso, no? Ci vuole quella presenza scenica. Ma io vorrei smentire la cosa che i nerd sono ciccioni, senza dare del nerd così gratuitamente a Vito, però i ciccioni... No, cioè... ma o sono ciccioni o sono spaventosamente magri. Sì, è vero, sono spaventosamente magri. Beh, io sono più o meno normale. Ma anche io però sono i chili della vita di coppia che mi hanno fatto... Prima ero spaventosamente magro. Io sembro spaventosamente magro, ma in realtà nascondo una pancetta molto bene, con diete e cose. Ma un po' di pancetta. Incredibilmente fuori forma, in realtà. Esatto. Bene. E la seconda domanda in realtà è: ma cosa ti ha spinto ad aprire singleplayercoop.com? Soprattutto, perdonami, poi la seconda parte della domanda è: ma sei soddisfatto di come sta andando? Finita la seconda. Questa domanda suona vagamente offensiva. No, tipo, avresti pensato che sarebbe andato così male? No. Beh, WordPress c'ha tutte le statistiche, quindi io non so quanti hanno... No, ma io non ho neanche bene l'idea di come vada il blog medio. Comunque, perché ho aperto Single Player Coop? È stata l'ambizione sfrenata, perché mi sono detto, cazzo, com'è possibile che non esista una specie di Kotaku italiano? Parto io. Proviamo a fare questa cosa. Naturalmente c'è tutto un piano dietro, cioè fra 5 anni Single Player Coop probabilmente comprerà multiplayer.it, cioè, no, in realtà no, non c'è assolutamente nessun piano, però l'idea era un po' di fare una cosa più o meno quello che fa, non lo so, Destructoid o Kotaku, però magari in versione un po' meno deficiente in alcune cose. Ma se un giorno venisse un tizio della Mondadori e ti dicesse ti do un bel po' di soldi, adesso scrivi per noi? Credo che probabilmente tenterei di sbottonargli la patta. Ah, proprio così. Per la serie a Berlusconi, amico mio, 30 secondi dopo. Sì. Okay. No, in realtà uno dei miei scopi nella vita è quello un giorno di avere un lavoro che posso fare da casa, perché a quel punto mi trasferirò su un'isola svedese, non sto scherzando, mi compro una casa lì che tanto non costa un cazzo e faccio come Ingmar Bergman che viveva... sull'acqua. Perché l'isola svedese e non un'isola tropicale che c'è caldo? Perché le isole svedesi, almeno l'isola svedese su cui voglio andare io, è una figata incredibile. Perché ci sono le svedesi, l'isola svedese. Perché ci sono le svedesi, sì, quello... Ma ti piacerebbe anche se il dottor Kotaku ti dicesse ti compro, fammi il Kotaku italiano? Cazzo, quello sarebbe carina come cosa. Comunque mi sono accorto che in realtà, avendo un lavoro a tempo pieno, più di uno o due poste al giorno non si possono fare. Sì. No, c'è una possibilità. Ed è avere un lavoro in cui non fai un cazzo dalla mattina alla sera. Che diciamo che il mio lavoro in alcuni periodi è un po' No, lo dico perché c'è una persona che adesso non cito, che conosco, che da quando ha cambiato lavoro fa 4 post al giorno sul suo blog. Ormai la citi, chi è? No, ma non... Non è conosciuto. Piero Ravanelli, noto anche come Zave per chi seguiva le riviste di videogiochi, vabbè. No, è comunque come se sono soddisfatto di come è andato fino adesso Single Player Coop, sì, assolutamente, non facciamo milioni di visite, però insomma. Sì, non male, non mi lamento. Ok, direi che possiamo passare alle discussioni della giornata, immagino. No, io in realtà stavo guardando chi siamo. Così. Tu qua su Single Player dobbiamo dirlo una volta ogni 10 minuti. Ah, sì, su Single Player Coop. .com, sì. Sì. Ma no, in realtà due domande. Una, ma non ti manca l'indirizzo italosvevo@blogspot.com? Come sarebbe? Scusa, qual è la domanda? No, perché un tempo, cioè anche adesso se clicco su Italo, era il tuo vecchio indirizzo, il vecchio indirizzo del tuo blog, no? Sì, sì. Sì, sì, perché partita, io sono sempre così, quando inizio qualcosa, di solito rifinisco per settimane. Quindi all'inizio ho semplicemente registrato col nick che avevo su Blogspot, credo. Ah, era un tuo vecchio nick. Sì, sì, sì. Ah, ok. No, così mi sembrava. Ma i Lego nella cosa cosa c'entrano? Assolutamente nulla, però mi piacevano, cioè erano nel come si chiama, nel tema del template. Sì, ma i template mica si mettono perché c'entrano qualcosa, ti devono piacere e basta. Esatto. Più che Lego piacciono, in effetti. Infatti, poi scusami, ci sta, c'è questa idea della creatività. Vabbè, dai, andiamo avanti. No, basta, non faccio neanche più domande, andiamo avanti. Welcome back to the stage of history. Qualche settimana fa, purtroppo, è capitato un evento per niente simpatico, ovvero durante una lite familiare a Torino, un ragazzo ha coltellato il padre, appunto, in maniera molto grave, poi non so come sia andata a finire la faccenda. Di cui volevamo parlare oggi è come i media hanno visto, hanno, come dire, raccontato l'evento e soprattutto il perché i media generalisti, nonostante i videogiochi siano comunque un medium e un mercato enorme, continuino a imperterriti con ignoranza abissale, perché anche leggendo articoli di altri, insomma, di altre tipologie, film, musica, libri, non vedo mai un'ignoranza tale, perché qua non c'è dolo, cattiveria, qua c'è proprio solo esclusivamente in ignoranza. Partivo dall'articolo sul Corriere, che è stato citato, mi pare, anche su multiplayer.it, però lì nell'angolo delle cazzate, perché in pratica questa lite familiare nei giornali si è trasformata con i titoli tipo "Litigano per la PlayStation, accoltella il padre alla gola. Ora basta, so giocare da solo". Cioè, i titoli del genere che sono veramente inquietanti, no? Per poi appunto arrivare al corpo. Io sinceramente ho pensato di cercare di invitare questo Marco Bardesono, che è la giornalista che ha scritto questo pezzo sul Corriere Online, Corriere.it Online, perché parla di... La parte là con Mortal Kombat. Esattamente, no, più che altro parte con il fatto che il ragazzo, giocando a FIFA sulla PlayStation, l'ha dovuto prima installare. Sì, infatti, ma notavo pure questo. No, però l'articolo assolutamente delirante, dove non si parla evidentemente di nessun problema, sembra che questa famiglia fosse perfettamente, come dire, felice, e poi è arrivato FIFA 2009 e l'ha devastata. La famiglia del mulino bianco rovinata da FIFA. Esatto, 2009. Ma soprattutto l'articolo, la prima paragrafo dell'articolo cita come Mortal Kombat o Menace 2, un videogame commercializzato dal 2007, la cui vendita è stata recentemente vietata sul mercato italiano, ma che si può reperire facilmente scaricandolo da internet, con i quali Mario, che, come dire, è il ragazzino, stava davanti al video per ore. Ora, io capisco tutto, però secondo voi com'è possibile che sul Corriere della Sera ci siano persone così ignoranti su un argomento che veramente tutti ormai conoscono? Cioè, io posso capire 15 anni fa, ma ormai c'è un Wii in ogni casa, FIFA è il gioco più venduto dell'anno. Ma è possibile che ci sia ancora un'ignoranza tale su questi argomenti? Ferruccio, tu che sei giornalista. Io che ho lavorato per mezza giornata su Menant 2, credo di aver fatto una piccolissima revisione di qualche pezzo di testo. Oh! Sì, una delle sue incarnazioni, insomma. No, l'ultima, prima che venisse pubblicato, sì. No, allora, in realtà, secondo me, quello che è successo in questo articolo è che il giornalista ha fatto un po' di ricerca, nel senso che ha cercato su Google qualcosa tipo videogiochi violenti, ha preso le prime due cose, cioè ha dato un'occhiata veloce, ha scoperto che Mortal Kombat e Menant 2 erano due giochi violenti. Ora, Solo dire, scusa, ha dimenticato Carmageddon, perché di solito saltava fuori. È troppo vecchio. È vero, salta fuori sempre. Io non è per giustificare il giornalista, però il problema è che questo avviene in moltissimi ambiti. Tu dicevi poco fa che non succede più nel cinema o quando si parla, non lo so, di libri. In realtà, appena si va un attimo fuori dalla competenza generale, i giornalisti scrivono una marea di cazzate, cioè c'è proprio una mancanza di volontà di informarsi. Il problema è anche che quando si scrive un articolo, di solito lo si scrive in un periodo di tempo molto ristretto, quindi non c'è il tempo di informarsi davvero su quello che succede. In Italia poi c'è la tentazione sempre di usare lo stile giornalistico all'italiana, che è sempre questa cosa che è sempre un po' più opinione che fatto. No, ma io capisco che questa persona non sia un giornalista ovviamente videoludico, sia uno della cronaca nera, quindi sì. Almeno lo spero, visto che lo pagano per fare questo, insomma. Però almeno chiedere a qualcuno, senza fare una ricerca così Cioè, ma guarda che ha ragione Ferruccio comunque. Questo tipo di cosa succede su tutti gli argomenti, tutti gli ambiti. È una banalità, però c'è proprio la classica cosa del ogni volta che parlo ogni argomento che conosco dicono almeno 3 o 4 stronzate evidenti, però me ne accorgo io che lo conosco. Poi non è neanche giusto generalizzare, perché poi se vai a vedere ci sono anche quotidiani che danno spazio, che ne so, a Fulco piuttosto che a Tognuti, a gente che un minimo ha idea di che cosa sta parlando. E peraltro ricordo sulla stampa.it dove scrive Fulco che per una volta che lui era in ferie ha scritto un'altra persona, adesso mi ricordo che ha scritto un articolo atroce su, adesso non mi ricordo su che era gioco, ma era su, cioè il tono era questo. Sì, il problema è poi quando fanno scrivere cose del genere, cioè articoli specifici, a qualcuno che palesemente non ne capisce un cazzo. In quel caso sì che la cosa è grave, perché vuol dire che non solo non hanno idea della cosa in sé, non hanno idea del fatto che esistono le competenze in quell'ambito per scrivere articoli, cioè se fanno fare a quello che si occupa di spettacoli il pezzo di tecnologia, è logico che ne viene fuori una cosa oscena, imbarazzante. Sì. Ma magari anche, cioè nel senso, forse anche perché vengono considerati argomenti poco importanti, è un po' come quando metti, non lo so, sulla Gazzetta il giornalista specializzato che fa solo calcio e gli fai fare il servizio sul cricket, tanto chi se ne fotte del cricket, però lui fa 2 ricerche su Google e scrive 2 minchiate e su 40 che lo leggono in 5 si accorgono che ha scritto minchiate. Sì, però un conto è scrivere una cosa del genere, cioè un conto è parlare di una tragedia banalizzandola in questo modo, è questo che non capisco. Cioè io fossi il caporedattore, il capo di questo tizio qua, leggo il pezzo e lo ficco a calci in culo fuori dalla porta. Cioè, perché come ha scritto una stronzata del genere, potrebbe averne scritto 10.000 in altri pezzi ancora più importanti. Non sì, so. Sì, ma che ti poi dice che il fattore se ne accorga? Cioè, lo so. Sì, però scusa, c'è il fatto anche che questo articolo è uno di quelli tipici in cui in qualche modo la colpa viene data a qualcosa di esterno, e quando ci sono questi articoli, secondo me dal punto di vista giornalistico sono molto molto scorretti. Okay. Cioè quando si parla di un non lo so, di un omicidio, di una roba del genere, e si fa intuire, insomma, si punta il dito in qualche modo su qualcosa che non c'entra assolutamente nulla, come può essere un film o un gioco, che insomma quando si punta il colpevole, si indica il colpevole in qualcosa di astratto, secondo me già stai dando un giudizio che non dovresti dare. Peraltro non solo dal giudizio, perché adesso sul Corriere il pezzo inizia con aperte virgolette, adesso basta, sono capace di giocare da solo, chiuse virgolette, come se il giornalista fosse lì di fianco a guardare la scena, mentre su Repubblica lo stesso evento. Infatti su Repubblica è sicuramente migliore come articolo. No, aspetta, stavano dai, giocando insieme alla, aperte virgolette, PlayStation, chiuse sì, virgolette. Questo... Vabbè, ma dai. Vabbè, questa cosa qua è una cosa italiana, cioè il gioco è PlayStation. No, ma però già ti comunica quanto è alieno questo testo. Però se tu leggi l'articolo su Repubblica, già diciamo sul fatto, non fai esempi stupidi come quello del Corriere. No, quello sì, sono d'accordo, però aspetta, stavano giocando insieme alla PlayStation, tra virgolette, ma dopo un banale litigio il padre ha staccato i fili di alimentazione dell'apparecchio e il figlio lo ha sgozzato. Cioè, primo, come cazzo fai a sapere? È crudo, proprio. Esatto. Come fai a sapere che ha staccato i fili di alimentazione? Cosa numero A. Cosa numero B? Lo ha sgozzato. Cioè, troce, ma io capisco che questi devono vendere i giornali, però porca troia. Insomma, minimo... Posso dare un consiglio? Ora sembro lo snob del cazzo che in realtà sono. Io do il consiglio a chiunque capisca un po' di inglese di visitare ogni tanto qualche quotidiano inglese, qualche quotidiano online inglese, non lo so, il Guardian, l'Independent, qualcosa così, e guardare come vengono scritti gli articoli in altri paesi. Scoprirete che c'è molta, molta, molta meno, non so neanche come dire, sono molto più concisi, molto meno cazzoni, e non c'è quel tono da studio aperto che veramente non si sopporta. Che peraltro sta dilagando quel tono. Sì, ovunque, in Repubblica ormai è diventato, vabbè, a parte che è proprio il sito delle tette. Veramente, no, ma sono rimasto... Sono molto peggio comunque delle versioni cartacee, che comunque sono in crollo verticale, ma sui le versioni cartacee sono antiche, sono fatte e scritte da anziani, però alla fine loro danno alla gente quello che vuole la gente, se la gente vuole tette. Sì, però quello che vuole la gente, cioè è un serpente che si morde la coda, perché è valido forse anche il discorso che alla gente puoi anche un minimo insegnare a volere qualcosa di meglio. Esatto. Esatto. Tanto ci sarà sempre quell'altro, gli darà le dette, e quelli andranno da dove ci sono le dette, sì, no? Sì, per carità. Comunque sul consiglio per uno che insegna, gli altri ne approfittano, danno dette, gli utenti vanno dalle dette. Sul consiglio di Ferruccio c'è anche Internazionale, che è una bella rivista che traduce, sì, una selezione, sì, di articoli dai vari giornali stranieri. Che... Peraltro lì ci sono anche una pagina dedicata alle vignette che ci sono sui quotidiani stranieri, dove spesso noi siamo massacrati in maniera imbarazzante. È come sparare sulla Croce Rossa, né? No, peggio. La Croce Rossa almeno c'è l'ONU che la difende. Noi non ci abbiamo neanche più quelli. No, comunque mi faceva specie vedere... No, quello che mi chiedo è, ma se raccontano un sacco di minchiate su una cosa di cui io... più o meno capisco, sulle cose di cui non capisco una mazza, quando si parla di politica, di economia, di salute, cioè, sono puttanate? Domanda? Sì? Sì? No? Sì. Beh, quando si parla di scienza, per esempio, ogni volta vedete scritto ho scoperto il gene del... Quello è fantastico. Quello non è vero, cioè, non è così, non è quello che... Come i bosoni di Higgins, l'ho scoperti, non ci sono ancora, li ho scoperti. No, ma va filtrato tutto, filtrate tutto, senza essere paranoici, però insomma... Spesso e volentieri, in qualsiasi telegiornale o giornale cartaceo, capita spessissimo che scoperta in Italia la cura contro il cancro. Vabbè. Poi vai a sentire il servizio, è stato scoperto un enzima che sui topi è riuscito, però in 5 anni, ma forse ci vorranno almeno 20-30 anni per una sperimentazione sull'uomo. Cioè se io spengo dopo i titoli di testa, cacchio, vado in fare festa, ricominci a fumare, no, perché... tu dovresti smettere comunque. Sì, lo so. Va bene, direi che questo argomento sorvoliamo sullo stupro. Dai. È allarme per un videogioco online che simula, sì, lo stupro. In realtà sono documentato, allora diciamolo, cos'era questo, sempre sul Corriere della Sera, che ormai è diventato il TGCom 2 La Vendetta. Si parla di un videogioco dove si chiama Replay, però rape scritto stupro proprio, dove effettivamente bisogna impersonare una persona, ma di sesso maschile evidentemente, che va a importunare giovani ragazze giapponesi, evidentemente lesbiche, andiamo a vedere la foto. Comunque mi sono informato un po', però effettivamente questo gioco qua, come dire, anche se il tono dell'articolo non è proprio del tutto onesto, però effettivamente è un gioco che punta su quella cosa lì, quindi non mi sentirei neanche di condannare tanto una condanna eventuale al titolo, perché è veramente una puttanata sta a fare, cioè... A me pare assurdo che ci sia l'intervento di un ministro, cioè, io ho sempre avuto l'impressione che i politici, o in genere le persone un po' più, insomma, un po' più anziane di noi, tendano a considerare internet come se fosse un quotidiano cartaceo. In realtà dovrebbero imparare che molto spesso internet è come il muro di un cesso pubblico, cioè non gli dai importanza, non trovi qualsiasi cosa, trovi le peggio schifezze, ma non è che stai lì a, sì, insomma. È ovvio che oltretutto, se io non avessi visto questo articolo, non avrei mai saputo l'esistenza di questo gioco. E... Però lo sai e lo scaricherai. Ovviamente no. Però sono d'accordo con te, il fatto che in questo caso particolare il gioco, diciamo che è abbastanza, come dire, borderline, insomma, è una di quelle cose molto giapponesi per sfogare la sua... Ma sì, sono miliardi. Sì, è triste che un ministro che dovrebbe occuparsi di, come dire, salvare posti di lavoro e grandi opere e ste menate qua, va a fare interrogazioni parlamentari su una cosa che oltretutto è pure in giapponese. Cioè penso che tu debba andare su internet, andandolo a cercare, cioè, e immaginare una storia in giapponese, vedere quattro ragazzine lì. Vabbè, tentativi. Raga, scusate, però vedo nell'articolo qui mi si è un attimo spostato il centro di gravità mentale, perché mentre si parla qua dei ministri che chiedono di togliere da internet questa cosa, c'è scritto: preoccupazione viene espressa anche dall'associazione telespettatori cattolici IART, che chiede alle famiglie di vigilare. Cioè, gli unici che hanno detto qualcosa di intelligente sono quelli dell'associazione telespettatori cattolici. Pensa come siamo messi. Cioè, hanno detto, chiedono alle famiglie di vigilare, che è una cosa perfettamente ragionevole. Che è l'unica cosa che ha senso alla fine della fiera. Quasi completamente off topic, però questa cosa, i personaggi sono ragazzine minorenni, mi ha fatto venire in mente una cosa che mi faceva morire dal ridere. A un certo punto i manga in Italia, che raccontavano nel 90% dei casi di minorenni, perché sono quasi tutti ambientati al liceo, hanno cominciato a mettere questa scritta nella prima pagina: i protagonisti di questo fumetto sono tutti maggiorenni e comunque fanno finta. No, cioè, questo, cioè, me l'ero perso. E comunque sì, tipo sì, è finzione, non si baciano davvero, tipo. Se stuprate qualche minorenne, il nostro fumetto non potrà essere perseguito. Ed erano fumetti che parlavano di liceali quando proprio erano adulti. Ed erano le cose, tra l'altro, tutto... anche in quelli più puri in assoluto, tipo le cose, prendi il mondo e vai, per dire, quelle robe lì, cioè non è che fossero... Il punto sarà adesso che il prossimo stupro arriverà alla Melone dicendo: ecco, è colpa del videogioco! O è colpa del tentacolo viola, che avete citato questa cosa, in quattro vi hanno ascoltato e l'hanno... Mamma mia! Beh, però almeno diventiamo famosi. Ma infatti, pensa se parlassero di noi su Corriere.it. Vabbè. Ti farei vedere le tette, però poi. Comunque, va bene, allora direi di passare al secondo argomento, vero? Del secondo argomento che viene, insomma, preso spunto dai nuovi fantastici metodi antipirateria di Ubisoft, che io adoro sempre per aver messo a pagamento il finale di Prince of Persia, ricordiamolo, ovvero con Assassin's Creed 2 per PC, stiamo parlando di versione PC, e la nuova protezione antipirateria consiste nel obbligare l'utente a rimanere costantemente online mentre gioca, per due motivi ovviamente. Il primo è perché così Ubisoft si accorge se uno usa il copia originale o pirata, ovviamente deve essere originale. La seconda cosa, i salvataggi vengono fatti totalmente in remoto sui server Ubisoft, quindi in locale praticamente non viene scritto una mazza. Allora, sentendo alcune versioni, perché ovviamente Assassin's Creed 2 non è ancora uscito e quindi questa nuova metodologia non è stata ancora implementata per gli utenti finali, secondo alcune versioni il gioco va in pausa quando cade la connessione e poi può essere ripreso e non c'è assolutamente pericolo di perdere i salvataggi perché sono salvati su diversi server o comunque backuppati in mille posti. Secondo invece Kotaku, che riporta appunto il titolo della notizia è più o meno la gestione dei diritti del Digital Rights Management di Assassin's Creed 2, sembra così carina come una pugnalata nel collo. In pratica qua invece PC Gamers, che ha messo le mani su evidentemente sulla copia di per la recensione di Assassin's Creed 2, dice che c'è il pericolo, ovviamente c'è la rottura di palle che se cade la connessione va in pausa mentre stai giocando e magari in un punto anche rognoso. Poi, secondo loro, c'è anche la possibilità che se capitasse qualcosa di brutto al server o ai server dove sono stipati i salvataggi, un sacco di persone potrebbero perdere appunto il salvataggio. Secondo voi... Scusa, secondo la notizia di Kotaku ti butta fuori dal gioco. Sì, quindi. Sì, e poi l'altro problema che potrebbe capitare è che mentre tu stai giocando e va giù la connessione e va giù il server, ti tira fuori dal gioco e torni a Windows. Secondo voi è una genialata di Ubisoft? Guarda, ci possiamo rifare una cosa che è successa da poco, che avevo sentito su Ringcast, con la chiusura dei server di Halo 2, no? Mettiamo che tra 5 anni chiudono questi server, giusto? Se una persona volesse giocare ad Assassin's Creed 2, come fa? Cioè, dove li salva? Questo è stato un po'. Sì, questo è ancora peggio. È ancora peggio del. In effetti, è ancora peggio del problema di Xbox Live, perché in quel caso si parlava solo di multiplayer. E sì, di, esatto, qui invece è proprio il single player. Però come cazzo fai? Non puoi giocare, devi fare una giocata di 20 ore. Beh, ma tra l'altro, non vorrei sbagliarmi, ma se non tutti, almeno una parte dei giochi per PC che hanno Xbox, cioè che hanno il Live, pretendono che tu sia connesso per salvare. Tipo Arkham Asylum ha questa cosa, sono abbastanza sicuro. No. Ah sì. Tu hai Arkham Asylum per PC? E l'ho testato, diciamo. No, aspetta. Io sto parlando della versione originale. Cosa stai tentando di dirci? No, stavo tentando di dire che il metodo pensato da Eidos non era del tutto privo di buchi. A prova di bomba. Esatto. Ma quello ok, si parla di come è pensato. Comunque l'ho giocato su PlayStation 3 poi pagando la copia. Sì, certo. No, davvero. No, vai avanti, scusa Andrea. No, niente, facevo questo esempio, che è paradossale perché lì i salvataggi in realtà ce l'hai sull'hard disk, ma se non sbaglio, se non sei connesso al profilo non ti permette di salvare Arkham Asylum, però magari sto dicendo una cazzata. Al di là di questo, a me il fatto di avere i salvataggi in remoto non dispiace perché è comodo, ce li hai lì, se formatti, reinstalli, vuoi ci giochi su un altro PC, queste cose qua sono comode. Certo, il fatto che se ti cade la connessione rimani sbattuto fuori, poi è anche normale che perdi i progressi dall'ultimo salvataggio, voglio dire, se esci dal gioco è come se ti fosse saltata la corrente, però è il sistema che mi sembra un po' scomodo, no? A me ovviamente la prima cosa che viene da dire, a parte appunto il futuro quando dismetteranno i server eccetera eccetera, è che non è che proprio tutti hanno la connessione 24/7, nel senso, metti che una connessione a consumo è fottuto, con un Fallout 3-4 sarebbe povero nel giro di pochi giorni. Metti che una persona in Bangladesh che non ha la sua connessione. Vabbè, che cazzo di gioca Assassin's Creed 2 in Bangladesh? No, però come fa a giocare? Mi sembra un metodo veramente troppo nazista, cioè poco rispetto per il consumatore. No, sì. Infatti io spero che vengano, che proprio Assassin's Creed 2 su PC venda due copie e ci siano 8 milioni di download. Ma che riescano a bucare il sistema. Tanto si figura, ti dico, per quante protezioni possono mettere, si troverà sempre il modo. Oddio, una protezione così in effetti un po' difficile da togliere. Saranno i server non ufficiali su cui salvi. Ma voi vedete anche un futuro così neanche nelle console? No. Si andrà a finire così, secondo me, man mano che la connessione, che le connessioni internet saranno più diffuse, più stabili, sì. Però già, non vuol dire che sia una cosa che apprezzi. Già adesso, in maniera parziale, sui giochi Live Arcade c'è, nel senso che se tu compri un gioco Live Arcade e lo vuoi giocare non col profilo con cui l'hai comprato, cazzo ne so, tuo figlio c'ha il suo profilo su 360. Ecco, no, racconta questa perché sentivo ma non ho capito. Allora, se io compro un gioco Live Arcade col mio profilo, ovviamente, sì, e sul 360 ho i profili, che ne so, di mio fratello, per dire, lui lo può giocare col suo profilo, con i suoi personaggi e tutto, ma deve essere online. Costantemente online. Mentre non far giochi. Partire il gioco no, e poi... Devi essere online mentre lo giochi. E tra l'altro, se cambi console, perché te la mandano in riparazione, tu stesso devi essere online, a meno di fare tutta una procedura, perché praticamente il controllo è doppio, devi essere tu che l'hai comprato e deve essere anche comprato su quella macchina. Però a questo si può sistemare. Rimane il fatto che il profilo che non l'ha comprato deve essere online per giocarlo. Almeno così era mesi fa. Io un po' che non provo cosa, magari l'hanno cambiata, ma ne dubito, insomma. Beh, per PlayStation 3 invece questa cosa, addirittura puoi sharare i download con altre persone, insomma, ha fatto un po' eccessivamente il contrario per certi versi. E, a me sembra una protezione assolutamente fuori di testa. Certo che se l'installazione è una stronzata, è quasi quasi meglio questa che perdere un giorno per installare un gioco quando è già sul torrent pirata che te lo installi in 5 minuti. Insomma, se devo scegliere... Come fai a saperlo? Però scusa, sarà che io ho la connessione Uber essendo in Svezia? Però io ho comprato, 3 giorni fa, ho comprato Mass Effect 2 tramite Direct Drive. L'ho comprato, erano 9 GB. L'ho scaricato in meno di un'ora, l'ho installato in praticamente 15 minuti e insomma dopo un'ora e mezza ci giocavo, che a me sembra che comunque i passi avanti siano stati fatti da quel punto di vista. Ma tu hai anche una connessione della Madonna, evidentemente. Sì, la connessione è buona, però insomma dal punto di vista delle software house, secondo me, cioè dei produttori, un po' di buona volontà c'è stata, cioè ci sono dei modi per, e non credo fra l'altro che Mass Effect 2 abbia DRM particolarmente invasivi. Poi certo, se l'atteggiamento è quello poliziesco di queste misure qua, ti passa un po' la voglia. Tu pensa che io Fasto e come connessione oggi hanno chiesto l'accommissariamento della società per mafia. Bastardi, poi ne tra l'altro con tutti i soldi che gli diamo per pagare i loro cazzo di abbonamenti non pagano neanche le tasse sti strozzi. Ho dovuto pagare 460 euro di arretrati. Però c'è sempre queste storie assurde, cioè. Poi spiegherò fuori onda. Si parla di riciclo di 2 miliardi di euro. Così, bastardi, devono dare i soldi. Va bene. Vabbè, comunque, cioè, immagino che Ubisoft si sia fatto i suoi conti, lo sapranno anche loro che si tagliano fuori un sacco di gente facendo queste protezioni. Hanno detto, tanto non vendiamo un cazzo lo stesso su PC, poi rompiamo le palle alla gente. Secondo me questi sono molto, insomma, esperimenti, stanno un po' vedendo quali sono le reazioni. Lo devi fare proprio col gioco di punta, l'esperimento. È proprio quello, lo fai col gioco di punta perché dici, uno dei pochi giochi che magari può veramente vendere su PC, proviamo su quello. Fra l'altro, scusate, ma non era stato rinviato, almeno si diceva che fosse stato rinviato su PC, la versione PC, proprio per paura della pirateria? Sì, però 6 mesi sono passati. No, se vi ricordate, c'era questa notizia. Sì, è vero. Comunque sono le stesse menti che hanno pensato finale a pagamento di Prince of Persia, mi sa che falliscono. Anche i due capitoli di Assassin's Creed 2, quelli. Anche quella è una genialata, l'ho letto ieri e veramente, non so se sapete che... sì, ne ha parlato anche Vito nell'ultimo Rincast. Ci siamo ascoltati tutti l'ultimo Rincast, 3 ore sì, e esatto. 45. Non ripetiamo le cose che hanno detto lì, se non capite cosa stiamo dicendo, mettete in pausa, ascoltate l'ultimo Rincast. Esatto, il 35 se non erro. Ma andiamo avanti e veniamo al terzo... argomento di questa serata, ovvero ci hanno tolto il porno dall'iPhone. Questa è la notizia dell'altro ieri, dove Apple, scrivendo una lettera agli sviluppatori che appunto si occupano di fare applicazioni sexy e meno sexy sulla piattaforma mobile di Apple, ha semplicemente detto che si scusa con gli sviluppatori, ma visto che hanno ricevuto un sacco di lamentele da genitori che i bambini pacioccavano con queste applicazioni, appunto con le donnine un po' discinte, le cancellano dall'Apple Store. Come ovviamente gente che come dire, ha fatto il suo core business di queste applicazioni e si ritrova da un giorno all'altro estromesso da qualsiasi fonte di guadagno appunto a causa di questa estromissione. Ma secondo voi c'era veramente bisogno di avere le donnine nude sull'iPhone? Cioè, alla fine della fiera, capisco che sia un modo per guadagnare dei soldi, però insomma... Io vorrei aggiungere una cosa, perché oggi ho letto un altro articolo, cioè un articolo che purtroppo non riesco a recuperare su questa cosa, e... È divertente il fatto che nel link che ci hai dato tu ci sono delle foto di Sport Illustrated, che c'è l'applicazione su iPhone. Che non è assolutamente come dire, un'applicazione porno, diciamo. No, Sport Illustrated, vabbè, è un sito, una pubblicazione sportiva, che però fa vedere anche le modelle in costumino, che si schiacciano la tetta e via dicendo. La cosa affascinante è che l'applicazione di Sport Illustrated non la fanno togliere, perché quello è un sito, come dire, affidabile, certo, famoso, conosciuto, pieno di soldi, ci fanno il culo se gli rompiamo le palle. Peraltro credo che abbia uno dei calendari più famosi del mondo, Sport Illustrated. Ed è comunque una roba che la sfogli e sbavi, perché obiettivamente ci sono delle donne però voglio dire, scusa, rompi le palle. Scusa, sono solo sportive, cioè, ci sono anche sportive, ma ci sono soprattutto fotomodelle, eccetera. Cioè, è la gnocca in costume da bagno, non ha nessun legame. Sì, assolutamente. Sportivo, giornalistico. E quell'applicazione non viene fatta togliere perché Sport Illustrated è comunque un sito di un certo spessore. Le lanciatrici del peso non ci sono in questo caso. Esatto. Tutto il rispetto per le lanciatrici del peso. C'è la bella tennista, per dire. Esatto. Sì, la Kournikova, ecco. Esattamente. Quindi c'è questo aspetto in più, nel senso, Apple rompe le palle, fa togliere le applicazioni, ma solo ai piccoletti che non contano nulla. Ma è sempre un po' come il Marchese del Grillo, no? Cioè, nel senso, nessuno va a rompere le palle a Sports Illustrated, è logico che anche dal punto di vista dell'immagine, io in realtà mi stupisco che Apple abbia consentito cose del genere prima, perché mi sembra il tipo di azienda che invece non vuole assolutamente avere quel tipo di immagine lì. Sì, ma mi sembra che siano applicazioni ben lontane dall'avere qualsiasi risvolto pornografico, eh? Cioè roba, non credo si veda mai una persona nuda completamente, cioè roba proprio roba castissima, solo che evidentemente ci sarà qualcuno che si è lamentato e loro, per fare la politica politically correct company, hanno deciso di fare questa scelta. Però quello che effettivamente hanno ragione gli sviluppatori piccoli, che cazzo, io è vero che non ho speso centinaia di milioni per avere il kit di sviluppo, però ci campo con quella roba lì, così tu mi tagli completamente la... Sì, fra l'altro mi chiedo qual è la giustificazione proteggere i minori e perché ci sono dei minori che hanno l'iPhone. Cioè... Questa è un'ottima domanda. Peraltro, c'è anche il parental control, tra l'altro, sull'iPhone, credo. Tra parentesi, tu per comprare le applicazioni hai bisogno della carta di credito o di una carta prepagata che comunque devi usare collegamento all'Apple Store tramite la tua user, che deve essere di un maggiore, cioè comunque devi essere registrato come maggiorenne. È vero che ci vogliono 5 secondi, però insomma c'è una serie di blocchi che... Vabbè, ma alla fine dico la colpa sempre dei genitori. È sempre il solito problema, i genitori invece di controllare la situazione come si dice? Scusate ragazzi, però in questo caso, cioè, non è colpa di nessuno. Se un ragazzino anche di 12 anni vede una tetta, gli può solo fare bene, cioè, non è che succede niente, che casca il mondo. No, il fatto che non la vede neanche, non è che si parla qua di video con animali e non so e giustamente, come dice Davide, non la vede comunque la tetta, perché sono in costume da bagno queste qua. A parte quello, a parte che le vede ogni giorno. Ah, sì, aperto, Sì, poi ci vabbè, la paradosso è quello, veramente. Io una volta ho quasi fatto un incidente perché c'era un cartellone pubblicitario, non mi ricordo più se era di Yamame Intimissimi, oddio, cioè, roba veramente soft porno. Beh, c'era Luttazzi e diceva che guardare le vetrine di Intimissimi era la cosa più erotica che potesse esserci, è come guardare un pollo arrosto, chiave erotica, quindi... Sì, ma però, cioè, quello che dice Gianluigi, secondo me non è sbagliato, a prescindere dal fatto che nel caso specifico non c'è niente di male se un ragazzino vede una tetta, però è comunque sempre un po' una minchiata che il genitore, invece di preoccuparsi lui di fare da filtro, dica: ah, è colpa di Apple che permette le tette sull'iPhone, ma vaffanculo, scusa. Sì, ma io, avendo fatto l'obiettore in una scuola peraltro privata, quindi me la sono goduta alla grande a delle scuole medie, vedevo proprio la differenza tra i genitori, quelli che capivano come andava, cioè capivano che era il figlio che aveva disintegrato quella cosa a scuola e gli rompeva il cazzo davanti a tutti, e il genitore che il figlio avesse ammazzato un altro bambino, lo difendeva a spada tratta dicendo: no, no, non è vero, è colpa di questo, è colpa dell'altro. Quindi sì, sicuramente c'è una serie di genitori che non educa molto bene. E da che non avrebbero dovuto fare figli. Esattamente. Poi vai a sapere, in questi casi magari c'è sempre l'opportunità di fare una class action, guadagnarci qualche soldo. Quindi... Assolutamente. E andiamo avanti. Andiamo avanti con Square Enix, che dice a tutto il mondo che faremo un remake di Final Fantasy VII solo se ce la facciamo a farlo in un anno. Ora qua. Quindi non ne fanno. Esatto, non lo faranno. E cagaci il cazzo. Prima di tutto, questa è proprio una stronzata. Prima di tutto, basta con Final Fantasy VII, ma che sì, abbiamo capito che era una figata quando è uscito, morco Giuda, però basta. Secondo me, invece di dire basta, hanno detto questa cosa che come basta, nel senso, tanto non la facciamo, quindi... Cioè, come quando mia nonna diceva farai questo quando le galline pissano. Esatto, è la stessa cosa, perché, insomma, io me lo vedo un Final Fantasy VII rifatto con tutti i fan, che ormai hanno 45 anni, incazzati come una bestia perché non gli hanno fatto il Final Fantasy uguale. I ragazzini che ormai sono diventati vecchi ad aspettare Final Fantasy 17, cioè veramente ridicolo. Ma i Chocobo pisciano? Penso di sì, anche se nel gioco non credo di averne mai visto uno. Peraltro li odio io. Puoi andare a mungere un Chocobo là. Final Fantasy 7 è l'unico Final Fantasy che io ho finito, l'unico. E questo cazzo di uccello gigante struzzo giallo me lo sono portato dietro per tutto il gioco, fino a prendere quella magia dei 12 cavalieri dell'apocalisse lì della Talon. Cioè, sei riuscito ad allevare il Chocobo d'oro. Sì, sono riuscito. Era fastidioso il verso. Non era fastidioso, no, tutto. Io alla fine, veramente, quando ho finito lo scontro con Sephiroth, che è durato 3 giorni, e poi è risorto, cioè al terzo giorno veramente sono riuscito a battere, una cosa terrificante. Io poi vorrei fare una piccola osservazione, cioè qualcuno, io non credo che nel mondo del cinema ci siano persone che dicono vogliamo 2001 di sé nello spazio rifatto con gli effetti speciali migliori, e il motivo è abbastanza evidente. Mi chiedo che senso avrebbe oggi rifare Final Fantasy VII, a meno che di stravolgerlo nel gameplay, cioè sì. Perché rifare un gioco che oggi irrimediabilmente sarebbe vecchio, cioè anche come non credo che giocato oggi sia così divertente come lo era giocato nel 1998. Beh, c'è da dire che invecchiano molto più in fretta i videogiochi, per cui capisco anche l'appassionato, quello proprio malato terminale. Ma maggior ragione. Sì, no, però anche dal punto di vista grafico, il malatissimo di Fantasy Detta dice sarebbe bellissimo rigiocarmelo con la grafica di adesso. Però appunto è solo proprio per voi. C'è nostalgia, però. No, sì, secondo me c'è quell'aspetto, e c'è anche l'aspetto che tu il gioco non lo, cioè il film tu in un modo o nell'altro lo riesci a rivedere, Odissea 2 in 1 nello spazio, e Final Fantasy 7 non lo riesci più a giocare. Però non è uscito, ma no, ma c'è sul PSN, scusa. Ah già, sì. Guarda, comunque al di là di tutto pure io ho cercato di giocarlo, però non ci sono riuscito. No, vabbè, ma non si può più. Il paradosso è che nel cinema sono i produttori che vogliono fare il remake perché così lo vendono al nuovo pubblico, mentre nei videogiochi ai produttori non gli frega niente di fare il remake, sono gli appassionati che dicono: no, fatecelo! Sì, perché fra l'altro poi è tutto da dimostrare che un remake venda. Cioè, Insomma, la gente che guarda il remake di Non aprite quella porta, non so se si va a vedere l'originale con quello stile da documentare. No, no. Nel penso di sì, perché il remake fa veramente cagare. No, nel videogioco. Cioè... Ah, nel videogioco, ok, sì. Beh, però se i remake vengono come Resident Evil Rebirth, insomma... ma non ha venduto poi tantissimo. Io l'ho comprato, cioè, americano, per il GameCube. Forse perché era sulla console sbagliata. tanto. Sì, forse fosse uscito per PlayStation 2 avrebbe spaccato. Insomma. Beh, oddio, con quella grafica su PlayStation 2 era un po' dura, però. Sì, no, in genere dico come brand anche vorrei sentire per essere più vicino a PlayStation. Però dipende, perché il problema è che per fare un remake con la grafica, per esempio, di Final Fantasy XIII devi spenderci una barca di soldi. Sì, ma i remake fatti con mezzi un po' più ridotti, che quindi costano tutto sommato relativamente, vendono. Cioè i Banjo, i due Banjo usciti su Live Arcade, nel contesto hanno venduto molto bene. Sì, però quelli non sono proprio remake, sono... Sì, la grafica è... ma è quello, cioè se l'investimento è relativo ne vale la pena, stare a rifarlo col motore grafico di adesso, però è un gioco vecchio, boh, non so. No, poi, cioè, io non ho giocato Final Fantasy XIII e non ci giocherò, ma tutti si lamentano, non c'è la warm up, ma basta, mica io... In Final Fantasy VII a girare 800 ore, che ogni volta che muovevi e ruttavi c'era qualcuno che ti voleva combattere contro. Basta, basta, per Dio. No, vabbè, credo che lì la lamentela sia più sul fatto che se togli l'esplorazione, togli la possibilità di fare missioni opzionali, praticamente alla fine ti trovi con un cartone animato interattivo, neanche troppo interattivo, cioè insomma. In effetti volevo fare solo polemica, così qualcuno potrà dire che siamo incompetenti, soprattutto io. Ma io sono contento di essere incompetente su Final Fantasy XIII. E ne vado fiero. Ma andiamo avanti velocemente, che questa ce la facciamo in 5 secondi. C'è stato l'X10 qualche settimana fa, che non è una fiera porno, ma è dove Microsoft presenta, cioè è un po' la festa dell'Xbox, anche se non c'era da qualche anno. E quindi partiamo subito, hanno presentato un download content di Left 4 Dead 2, che si chiama The Passing, che non ho la più pallida idea di cosa sia, ma penso che Andrea lo sappia. Non sto seguendo troppo, ma dovrebbe essere quello in cui c'è la campagna in cui si incontrano i personaggi dell'1 e del 2, se non sbaglio. Quindi sarebbe una cosa anche... Non ho capito se però ti fanno giocare in 8 o sono semplicemente fra le palle i personaggi dell'1. Scusate, ma esce su PC? Penso sia PC che 360. No, probabilmente come al solito su 360 lo paghi, su PC no, ma io non mi sono praticamente preparato su questa cosa, quindi sto dicendo proprio quello che mi passa per la testa. Quindi sei incompetente. Esatto. Anubi! Sono peggio, incompetente, e parlo comunque dell'argomento che non conosco. Nel frattempo Gianluigi bestemmia, coprendo le proprie bestemmie. Poi Alan Wake, come si diceva prima, è stata cancellata la versione per PC, che tanto uscirà un mese dopo quella di 360, anche se dicono, ma io lo spero, perché comunque però... alla fine è un gioco vorrei giocare. Però Gears of War 2 non è uscita poi la versione PC. Sì, ma il primo non credo abbia venduto tantissimo su PC. E neanche Fable 2. Comunque. Fable 2 non è uscito sul PC. No. Ah, ok. Secondo me sono giochi che nella versione PC, il primo episodio non ha venduto un cazzo proprio. No, più che altro, ma uscirà veramente Alan Wake? Per sì, sì, esce. Siamo sicuri? No, perché qualche giorno fa l'hanno fatto pure un evento qua a Milano dove la gente è andata a giocarlo. Quindi esiste. Esiste, poi magari non lo finisce. C'è chi sostiene che aveva giocato Duke Nukem Forever, per cui voglio dire. C'è chi sostiene di aver giocato Gran Turismo 5. Sì, in effetti Gran Turismo 5 è un anno che lo fanno giocare alle fiere e continuano a non uscire, quindi... Impressionante, e ogni giorno è una barzelletta in più. Invece poi finalmente uscirà, ritornerò a giocare a Perfect Dark su Live Arcade in altissima definizione. Sì. E certo mi rifacessero anche GoldenEye. Non possono, c'è il problema della licenza. Ah già, perché c'è il problema della licenza, perché è di Nintendo, non è esatto, GoldenEye. Sì. Guarda, allora ti dico una cosa che non so se posso dire, ma non importa. In Perfect Dark riprendono alcune cosette, nel multiplayer ci sono delle robe di GoldenEye, tipo un paio di mappe, credo. Che bello. Peraltro io credo di essere uno dei pochissimi idioti che ha giocato tantissimo in multiplayer a GoldenEye su uno schermo a 15 pollici in 4. Io forse erano un po' più pollici, però anch'io ci ho giocato un sacco in 4. Era fantastico. Sì, sì, era divertente. E gli aneddoti. Sì, però scusate, anche lì secondo me c'è un po' di fattore nostalgia. Tantissimo. Tra l'altro, quei giochi lì sono proprio il massimo esempio di non c'entrano un cazzo con come fanno adesso gli FPS, sono giochi che non ti regalano nulla, probabilmente tu ti metti lì a giocarlo e ti dici perché non c'è una freccia che mi dice dove devo andare, dov'è la mappa? Scusa, se non ricordo male non c'era neanche, c'era il controllo con doppio stick? No, uno solo, c'era perché c'era usando due pad. No, no. Sì, mi ricordo che c'era in GoldenEye. C'era, su GoldenEye c'era, sono sicuro. Magari non l'avevano messo poi in Perfect Dark, ma su GoldenEye c'era. Potevi usare due pad e giocare così. Io comunque sono ancora convinto che il controllo del Nintendo 64 è forse il migliore, o uno dei migliori, geniali. Sono d'accordo. Ma era fantastico, tricornuto. No, peraltro, in GoldenEye, io mi ricordo che è stato il primo gioco dove potevi veramente fare, cioè c'era il secondo livello, mi pare quello nella neve, dove tu facevi il cecchino da 300 metri, sì. Era proprio un'innovazione quel gioco, però l'effetto nostalgia, come dice Ferruccio, c'è tantissimo. Sì, ma no, erano giochi veramente molto più complessi, ma complessi non necessariamente nella maniera giusta, secondo me. Sotto alcuni aspetti sì, tipo era bello il fatto che a seconda del livello di difficoltà cambiavano gli obiettivi, cioè avevi più obiettivi se alzavi il livello di difficoltà, quindi non era solo più stronzi nemici, e me lo ricordo bene perché GoldenEye l'ho fatto al livello di difficoltà massimo e bestemmiando per un mese. Special Agent, no, 007 si chiamava il livello più alto. Sì, esatto, Agent 007 tipo. Ma non è dopo la rubrica del... cosa? No, quello è un'altra cosa. La rubrica dei vecchi stronzi, sì, è dopo. Allora, finiamo subito l'argomento X10, Fable 3, io non ho letto novità del Natale con Fable 3 che doveva esserci, Molino ha tirato un'altra solita cazzata, spaccheremo il mondo, sarà il gioco più incredibile della storia. No, aveva detto che ci sarà qualcosa, ci saranno delle cose che daranno fastidio, faranno incazzare. No, allora, questa storia qui, in realtà, io in realtà a Molino un po' gli voglio bene, perché alla fine è un cazzone, cioè spara cose assurde, però almeno c'è il coraggio di dirle queste cose. No, quello che lui ha detto è stato, ha detto a un giornalista, ma in un'occasione assolutamente informale, ha detto ci saranno in Fable 3 delle cose per cui alcuni si incazzeranno. Esatto, e sì, il giornalista sì. Ha scritto su Twitter questa cosa, in realtà si stava riferendo probabilmente al fatto che ci sarà un sistema di crescita che sarà basato sui punti esperienza. No, o il protagonista si riferiva esattamente a quello, perché l'altro giorno ascoltavo un podcast con lui ospite e spiegava questa cosa, diceva io non mi rendevo neanche conto che siamo nell'era in cui se dici una roba dopo 20 minuti sta su Twitter e chiacchieravo con questo tizio e sì, e comunque intendeva quello, cioè queste cose che ha tolto rispetto agli standard dei GDR ad alcuni magari daranno fastidio. Tra l'altro poverino quest'uomo ormai è colpito da sta maledizione che qualsiasi cosa lui dica, pure se lui dice scendo a comprare scendo a comprare le sigarette. Cioè, qualsiasi cosa dice viene veramente gonfiata all'inverosimile. Sì, è vero. Un po' come il suo amico David Cage. David Cage. Sì, però David Cage ci tiene che accada questa cosa, secondo me. Vabbè, sì, David Cage è francese, quindi un po' più stronzo, però. La grandeur. Bene, allora finiamo quella parte delle news con questa cosa che mi ha stupito abbastanza. Sono state distribuite qualche giorno fa le beta per StarCraft 2, finalmente, dopo 11 anni di assenza, e si trovano su eBay queste chiavi appunto a $299. Siamo diventati tutti rincoglioniti? Questa no, solo la... loro, scusa, Sono quelli che le hanno comprate. Cioè. Ma c'è gente veramente che spende $300 per una beta, che tanto il gioco uscirà tra poco, insomma, prima o poi esce. Ma c'è gente che paga per avere gli achievement sbloccati su Xbox Live, voglio dire. Cioè. Sì, ma non $300. No, ho capito, però. No, ma io ricorderei poi che una beta in teoria è un favore che tu stai facendo allo sviluppatore. Eh sì, perché si chiama beta apposta, perché... lo stai aiutando a trovare alcuni bug, quindi... No, tutto questo mi ricorda l'argomento a te Ferruccio caro del facciamo il reality in cui come premio vai a fare il beta tester. Ah, che figata. Ho guardato sul sito, si chiama The Tester quell'affare, ed è della Sony proprio, perché sì no, ma è uscito il primo episodio, è uscito la settimana scorsa, io l'ho scaricato ma ancora, cioè, ne ho visto i primi due minuti e sembra una versione povera dei reality show quelli all'americana, dove c'è una competizione per fare qualcosa. Ma ci sono fighe almeno. Esatto. Le ragazze ci sono in quello show, almeno, oh raga, ne ho visto davvero due minuti, quindi avrò visto due donne, però direi che... Vabbè. Diciamo no, che... ma non che gli uomini, per carità, non che gli uomini siano, non so, degli adoni, però davvero diciamo che non sono proprio le bellezze classiche. diciamo che, come si chiamava quel reality su MTV dove c'è la tipa bisex? Cioè... No, Gesù, Tila Tequila. Esatto. Quale? A Shot of Love with Tila Tequila. Bravo. Che cazzo è questa cosa? È un reality show dove la protagonista... Non parliamo, che... per favore. No, me lo spiegava Gianluigi, che così è meno... Sì. La protagonista è bisex, c'è un gruppo di ragazzi, e alla fine vince solo uno, o uno o l'altra. Lei, insomma. Bello, né? Sempre meglio di Paris Hilton, My Best Friends Forever and Ever. Quello è bellissimo, guardate quello... Per quelli che fumano marijuana, io consiglio veramente di guardare quel programma perché è un abisso della mente. Ok, se non fumi più, ti basta quello. No, ma perché è un po' come Paura e Delirio a Las Vegas. Va bene, allora chiudiamo qua la parte delle news e passiamo a Ce l'ho con di Gianluigi. Con chi stai parlando? Dici a me? Non ci sono che io qui. Dì, ma con chi credi di parlare tu? Ce l'ho con Facebook. Parte, premetto che lo uso, ovviamente. Solo che non possono aggiornarlo ogni mese mettendo sempre più stronzate. Allora, intanto la cosa che mi ha dato più fastidio nel nuovo aggiornamento è che quando apri le applicazioni, se c'è la barretta delle applicazioni, quando la apri ti fa uscire tipo tutti i giochi giocati, queste cose qui, le note, i link, queste cose qui, e poi per andarla a richiudere devi scendere tutta la pagina. Cioè non c'è il modo per richiuderlo tranquillamente. Poi è il social network più usato del mondo ed ha una chat che fa cagare. Si blocca ogni secondo. Ci sono certe volte che non carica le pagine. Non ci si può mettere sullo status invisibile, fra l'altro. Ah, tra l'altro, infatti, la cosa della chat è fantastica. O vai offline oppure ci sei. Cioè tu non puoi vedere le persone se sei offline. Chi c'è? Devi per forza entrare. Ci sono delle cose assurde, però dico, alla fine è una cosa utile. Però tu sei uno di quelli che si iscrive ai gruppi, tipo, non lo so, per tutti quelli a cui piace dormire. Cioè, queste cagate incredibili. Si sente, sì. Allora tu sei parte del problema, non della soluzione. Vabbè, dai, comunque il problema è a livello di programma proprio. Beh, credo che come tutte le cose nate probabilmente per un'utenza molto minore e sfondate a livello mondiale, probabilmente non hanno aggiornato in maniera tecnologicamente all'avanguardia tutto il sistema per appunto sostenere i milioni e milioni di personaggi. Tra l'altro voi sapete che Facebook ha l'ambizione di, cioè secondo quelli di Facebook, il concorrente principale è Google. Cioè hanno delle ambizioni sconfinate, quindi... Ah, Google proprio come Google azienda, non Google sì, sì. Quella vacca. No, proprio come azienda, loro vedono il concorrente maggiore Google. Benissimo. Loro si vogliono sostituire nell'idea di Facebook per il futuro, è quello che la gente invece di cercare su Google chiede alle persone via Facebook. Certo. Io un pochino questo lo faccio con Twitter, cioè su Twitter trovo un sacco di roba utile, mentre su Google se cerco qualcosa trovo solo gente che cerca di vendermela. Cioè cosa cerchi? La droga? Ma esattamente come fa soldi Facebook? Con le pubblicità, c'ha un sistema di pubblicità come c'era Google con AdSense. E invece proprio con Facebook ce l'ho, prendendo come spunto la cancellazione di quel gruppo atroce che peraltro mi era stato segnalato anche da una mia amica che sì, ce l'aveva sì, con i bambini down. Io trovo incredibile che un'azienda che fattura un sacco di milioni di dollari all'anno non abbia un sistema di censorio, perché qua ci vuole, a monte e non a valle. Cioè, possibile che non ci possano essere 5 minchioni per stato che guardano tutti i gruppi che vengono creati e cancellano quelli con le parole negro, frocio e handicappato? Ora ci sono anche un sacco di gruppi fascisti. Appunto. E io dico, se teoricamente l'apologia di fascismo non è un reato. No, sì, che poi, vabbè, se no poi torniamo all'applicazione per iPhone di Mussolini, fantastico. Comunque, a parte queste cose qua, cioè io trovo incredibile che in questo caso la censura la voglio, nel senso tu non puoi dirmi che il gruppo Ammazziamo i Bambini Down è un gruppo, come dire, ma così goliardico, ma col cazzo, io ti sparo in testa, cioè a parte nel senso, adesso evitiamo di accendere i toni, però un strato censorio a monte che secondo me occuperebbe proprio zero a livello di costi dovrebbe averlo un social network di questo tipo. Ma io credo che loro l'abbiano, però il problema è che essendomi occupato tra l'altro anche di moderazione nella mia carriera, la cosa difficile è che se c'hai un sistema per cui controlli a posteriori, quindi su segnalazione e cose così, diventa tutto più difficile, ci sono moltissime possibilità di fare errori. Nel caso invece in cui controlli tutto a priori, quindi approvi solo le cose che possono essere approvate, non esci più. Quindi è un po' un problema, e questo credo che sia un problema di... ce l'ha eBay, insomma ce l'hanno tutti i siti che hanno contenuti generati agli utenti, è un problema grosso che nessuno ancora è riuscito a risolvere, se non con orrendi call center, cioè strutture tipo call center con la gente che fa finta di controllare. Comunque concordo che Facebook sta degenerando sia a livello tecnologico. Vabbè, comunque diciamo riguardo quel gruppetto, quelle persone di illuminati. Sì, è stato secondo me un tentativo di uscire dall'anonimato, ecco. Non era una cattiveria, era proprio datti fuoco in cima a Notre Dame, esce l'anonimato subito. Lo so, la madre di Dio è sempre incinta. Esatto. Ah, ma scusate, forse c'è una storia divertente da raccontare riguardo Facebook e la Svezia. Praticamente quando c'è stato il problema di Haiti, sì, Qualcuno in Svezia ha creato un gruppo che diceva per ogni membro di questo gruppo doneremo una corona in beneficenza ad Haiti. Una corona sono tipo, ora c'ho questo dubbio terribile, no, tipo una decina di centesimi d'euro. Ma quando entrerete nell'euro voi? Sempre troppo tardi, guarda, non ce la si fa. Comunque, in pratica dopo un po' che questo gruppo aveva raccolto non so quante decine di migliaia di persone, hanno cambiato il gruppo e hanno messo delle foto di necrofilia è cambiato con aveva il titolo tipo a tutti quelli che amano la necrofilia. Sì, ma la fanno spesso sta cosa, ci sono è gruppi successo tipo, odio Berlusconi, si scrivono in milioni e poi diventa amo Berlusconi, cioè, no, sai cosa è successo con il gruppo Italy su Facebook, che è diventato sosteniamo il grande Silvio Berlusconi. Io ero iscritto e ho ritrovato questa cosa qui. Bravo, sostieni. E io sostenevo Italy, non sostenevo Berlusconi, poi infatti mi sono cancellato. Ma guarda, io vorrei dire davanti a Dio Italia amore mio. No, com'era, scusa. Ma l'avete sentita la parodia? Sì, stupenda. Una roba fastidiosa di Facebook che mi è successa proprio adesso mentre parlavamo, perché sono andato a cazzeggiarci un po' sopra, sono queste specie di, non so, di pseudo Trojan che ti dicono tizio ha commentato sul tuo post, tu ci clicchi per andare a vedere, in realtà è un'applicazione che ti dice installami così poi vedi il commento. Ma che cazzo? Questa è la cosa, questo è quello che Facebook dovrebbe tenere d'occhio e non fanno, quindi... Sì, poi sono applicazioni all'interno di Facebook, non è che ti installi. Sì, poi tra l'altro Facebook però ci fa pure i dati. No, sono pessime queste cose. Va bene, direi che abbiamo insultato Facebook e un sacco di altra gente, giustamente, peraltro abbastanza. E passiamo alla fantastica rubrica Correva l'anno. Festosamente accolto a Civita Castellana, il principe di Piemonte inaugura nelle luminose arcate del Forte San Gallo la mostra della ceramica artistica e industriale. Ho scelto, perché l'ho scelto io, il 1998. Il 1998 ha visto la nascita di diversi giochi che poi hanno avuto dei seguiti particolarmente importanti, altri che non hanno mai visto un seguito. Direi che, parlando di first person shooter, possiamo avere due capisaldi tipo Half-Life e Unreal, che credo tutti, abbiamo giocato tutti, almeno no. Half-Life. Neanche uno? No. Non hai giocato Half-Life? Per favore, puoi andartene. comunque lo giocherò. Giocherà tra i giochi dove giocare in futuro. ma non il 2, il primo questo, eh. Sì, il giocherò tutti e due. Beh, che entrambi hanno generato veramente dei titoli spettacolari in futuro. Uno da una parte multiplayer, Unreal, e l'altro da, insomma, il capolavoro dei first person shooter, che era Half-Life 2 e relativi seguiti. Credo che non ci siano dubbi su questa cosa, no? Anche se Valve ci fa aspettare l'episodio 3 per ancora miliardi di anni. Sì. Poi c'è stato la mitica versione europea di Gran Turismo, che purtroppo aveva una colonna sonora di merda rispetto a quella giapponese. Anche a me piace il rock, però quella giapponese era molto più bella, che è uscita l'anno prima. E poi invece c'è un Fallout 2 che secondo me è stato l'ultimo vero GDR di un certo tipo, perché beh, dai, ecco, questa è una prova della tua età, fra l'altro, perché i nostalgici dei giochi di ruolo sono sempre ultra trentenni. Sì, io non sono mai stato un grande fan dei giochi di ruolo alla Fallout o alla Baldur's, cioè questo isometrico, però Fallout 2 mi era piaciuto, non l'ho finito purtroppo. Però hanno fatto Torment, le stesse persone dopo Planetscape, quello lì, Torment, sì, e non l'ho giocato. quello era il vero baluardo degli ultra trentenni nostalgici. Diciamo che io per esempio non ho mai sentito parlare di Fallout prima di Fallout 3. Ma tu sei giovane. Oh, Gesù. Bisogna perdonare. E tra l'altro ho cercato di reperire i primi due, non ci sono riuscito. Ci sono su Good Old Games. C'è un sito, vedi un po', che si chiama Good Old Games ed è tipo... Ma per controllare. Scusa, una specie di Steam dei vecchi giochi. Ma non avevano messi freeware i primi due Fallout? No, ma stai scherzando, ancora pubblicano le raccolte. Ah sì? Ma cos'era che avevano messo freeware? Vabbè, niente, non erano loro. Qualche avventura grafica. È possibile, sì. Vabbè, andiamo al prossimo e lo giocate. Invece era uscito Spyro, che non ha mai avuto seguiti belli, veramente belli. Però il primo, io lo ricordo, ed era molto bello. Il primo era molto bello, ma difatti mi stupisce che non abbiano fatto poi... Cioè non ha più avuto successo, ne hanno fatte qualcuno su PlayStation 2. No, ma perché poi la licenza è rimasta, era una questione legale, la licenza è rimasta non mi ricordo chi, e loro sono finiti a fare, loro erano Naughty Dog. No, Insomniac. Ha fatto solo il primo, non ha fatto anche tipo il secondo. Sì, mi sa di due, sì. Tre. Sempre su PlayStation 1. Sì, su PlayStation 2, ma la stessa cosa di Crash, anche lì Naughty Dog ha fatto quelli PS1 e poi si sono messi a fare altro. Sì, però sarà che Spyro mi era piaciuto, era carino, insomma, poi ero nel periodo Banjo, Spyro, insomma, avevo tutti questi platform 3D. No, ma all'epoca mi ricordo che nei salotti bene si diceva che era che cosa, come si dice, Insomniac erano un po' più fighi di Naughty Dog, adesso si è un po' ribaltato la cosa. Eh sì, vabbè, con Uncharted 2. Che comunque a me, come si chiama, spara tutto di Insomniac. Resistance 2 non mi era dispiaciuto, insomma, carino. Andiamo avanti e beh, c'è insomma StarCraft, appunto, che si vendono le beta del $300 d'oro. Esatto. No, che per realtà non pesa niente. Vabbè, ok, avanti. Cosa non pesa? No, il materiale venduto a peso d'oro è gratis, però vabbè. Io avrei una riflessione molto da vecchio stronzo sul 1998. Posso farla o lasciamo stare? No, falla, dai. Così. Allora, la riflessione del vecchio stronzo, che Gianluigi non avrà idea di cosa sto dicendo. Mi sembra l'anno che ha segnato la morte quasi definitiva delle avventure grafiche, quelle vecchie, belle, LucasArts, Sierra, perché c'è, è l'anno di Grim Fandango, che è l'ultima grande avventura grafica della Lucas, è l'anno in cui sono morti Quest for Glory, King Quest, morti in maniera totalmente ingloriosa, anche se c'è da dire che l'anno dopo è uscito Gabriel Knight 3, che comunque era un buon gioco, è l'anno di Blade Runner, che è l'ultima bella, veramente bella avventura grafica fatta da gente che non era lungo, tra l'altro. C'è coso Tex Murphy Overseer, che doveva essere il primo di una trilogia e invece ha finito lì, cioè è proprio successa questa cosa nel 98, che è finito quel genere, soprattutto sono finiti quel genere fatto dalle due grandi case che lo facevano, e fra l'altro, volendo simbolicamente, c'è stato il passaggio, nel senso che prima erano le avventure grafiche, i giochi con le belle storie appassionanti, e in quell'anno escono Half-Life e Metal Gear Solid, che sono i due giochi belli cinematografici d'azione con la storia approfondita. È vero, è un passaggio di testimone abbastanza interessante. Come peraltro vedo che è anche l'anno degli ultimi due picchiaduro che ho giocato fino alla morte con i miei amici, ovvero il primo Soul Calibur e Tekken 3. Tekken 3 era meraviglioso. Tekken 3. E poi dopo, sì, abbiamo giocato, ma Soul Calibur e Tekken 3 ci avremmo perso miliardi di giorni. Cosa? Con simpatici, come dire, finali di pomeriggio, io che dicevo, hai perso, lui che se ne andava da casa mia, mio amico, e io gli telefonavo a casa dicendo, hai perso, e ovviamente la cosa era reciproca quando le prendevo io, ma questa voce avanti. Adolescenziale tipo disco, sai quando le storie tese fanno sì. La voce degli adolescenti. Era veramente, forse eccessivo, perché poi l'ho fatto con la mia ragazza di allora e si è messa quasi a piangere. C'è stato un momento veramente tristissimo della mia vita. Ma è l'anno di due giochi che tu hai proprio ignorato completamente. Quali? Medieval. E Metal Gear Solid? No, Metal Gear. Vabbè, Metal Gear lo c'è. Tra l'altro, Metal Gear Solid e Thief the Dark Project, l'esplosione dello stealth, toh, un'altra roba. Sì, anche se il primo io effettivamente non avendolo giocato tanto, l'ho messo, insomma, è più il secondo, spendami la cosa. Medieval, a me personalmente non l'ho trovato tutto solo granché di gioco. A me piaceva parecchio. E anche i vari Tencho, mi piacevano. Quello era bello, sì, il primo sicuramente. Invece un gioco che non ha mai avuto un seguito e credo lo stiano facendo, comunque ci stiano pensando, è Parasite Eve. Sì, sì, stanno facendo. No, ha avuto 800 seguiti su cellulare. Ma non mi è mai piaciuto come gioco, francamente. C'è stato il 2 comunque di Parasite Eve. Sì, c'è stato il 2, non l'ho cagato proprio. Sì, fra l'altro se non ricordo male era un po' diverso, c'era qualcosa di... Era tipo l'uno era molto CDR, il secondo era un po' più alla Resident Evil, più d'azione. Questo è quello che mi ricordo, io in realtà non E poi azione naturalmente un eufemismo. Soprattutto, signori, è stato l'anno del miglior survival horror della storia. Oddio, dici... Resident Evil 2. Cosa? Che cosa? Code Veronica, dai. Comunque, no, Silent Hill 2. No. Sì, no, ma non dai. È un survival horror. Vabbè, stiamo qua scherzando. Poi finiamo con la rissa finale sui ma io direi, visto che siamo stretti coi tempi, che le persone ci hanno da lavorare la notte, io direi di chiudere qua questo secondo esperimento dell'anno che correva, e qua ovviamente poi la terza volta sarà quella buona, e andrei direttamente ai giochi giocati. Prepare to qualify. Allora, con i giochi giocati chi inizi? Inizi tu, Gianluigi? Va bene. A parte che ho praticamente giochi che avete giocato pure voi, a parte uno. Allora, intanto inizio con il peggior gioco della storia, che è Rise of the Argonauts, che è un misto tra che cosa? Tra la merda e... No, ha delle componenti GDR, ha delle componenti action, fa tutto male però. Perché il sistema allora, intanto in generale la storia è un miscuglio di miti greci, che veramente per uno che conosce un po' di storie di questo genere qua fa veramente rabbrividire. Per esempio, dovrebbe essere ambientato nell'epoca micenea e ti cita Alessandria d'Egitto, che... Come hanno potuto fare questo? Ci sono 500 anni, no, 500 sto dicendo minchia, ci sono 1000 anni di differenza tra una cosa e l'altra. Comunque, io in questo momento ho i ricordi del liceo veramente sepolti proprio. Gianluigi studia storia. Mi fido di quello che sta dicendo. Esatto. Io ho preso 27 storia greca. Quindi, allora. Ma avessi preso 30 e l'ora. Sì, infatti. Lascia stare, che è un esamone. Quindi ci sono queste componenti GDR che sono pessime. Intanto non riesci mai a capire quando il tuo personaggio diventa più forte. Cioè, man mano che vai avanti ti dà delle armi che puoi potenziare una sola volta. E, boh, non so, mi è successo veramente che mi hanno dato un'arma nuova e invece poi ho usato per fino alla fine del gioco una delle prime armi che mi hanno dato, perché le altre facevano cagare. Bene. Sì, ma poi in generale la storia è pessima, non lo so, guarda. Ti è piaciuto, diciamo, sì, proprio tanto. L'ho finito, non so neanche io come. Tra l'altro probabilmente andava rigiocato perché per sbloccare i vari potenziamenti bisogna rigiocarlo più volte, io l'ho cancellato invece. Come l'hai cancellato? Cancellato, sì. Certo, l'ho cancellato, sì. Cancellato. Con l'acido muriatico. No, l'ho disinstallato, va bene. Okay. Dato che io ormai gioco solamente su PC. Esatto, sì. L'altro gioco che è Bioshock 2, e mi sa che, Davide l'ha iniziato. Sì, anch'io lo sto giocando. Ah sì, ok. Allora, intanto ero partito con l'idea che non mi sarebbe piaciuto, quindi ero partito prevenuto. Stessa cosa. Il primo mi era piaciuto tantissimo, questo secondo pure di più, alla fine. Cioè, allora, è innegabile dire che Bioshock 1,5, questo è innegabile. Però l'atmosfera si è mantenuta eccellente. Poi il fatto di usare il Big Daddy è fantastico, anche se è un primo modello. Io difatti su questa cosa avevo i miei dubbi, invece concordo, è fantastico, veramente sono riusciti a... Cioè, la trivella è meravigliosa. Sì, sì, sì. E soprattutto con i vari potenziamenti che si trovano andando avanti nel gioco. Ma guarda... L'hai già finito? Sì, sì, sì. A parte che è corto. Sì, sì, sì, sì. Quindi è un gioco che probabilmente può piacere a quelli che... A cui... piacciono i giochi corti. Mi... l'avrò finito una decina di ore massimo. Ottimo. Facendo esplorando anche molto, C'è tra l'altro la... credo che sia un gioco fatto da 86 studi diversi. Sì, vero? Sì. Non so, però la cosa che hanno dato principalmente che hanno migliorato l'acqua in una maniera veramente interessante. Cioè, prima l'acqua, che doveva essere la cosa principale nel primo BioShock, era fatta male. Qua hanno migliorato, hanno fatto questo lavoro di acquosità. Sì, vabbè, te la do per buona perché non saprei cosa dire. L'acqua è più bagnata adesso. Sì, ti dà quel senso di bagnato che il primo non ti dava. E qua perché i nemici principali sono queste Big Sister, che sono veramente dure da buttare giù e che trovi praticamente ogni volta che salvi tre sorelline, che sono, sì, sono sempre queste bellissime sorelline. Potendo fare pure uno spoiler, lo faccio, no? Non lo faccio? No, dai. No? Poi si incazzano. Sì, vabbè, no, non lo spoiler. Fallo allora. Ok, in una fase del gioco puoi usare pure una sorellina, non la Big Sister. Puoi usare, cazzo, non ci sono ancora arrivato. Neanch'io, porca. Sono la fine. Io sono, probabilmente sono subito prima, mi hai rovinato la partita che farò dopo. Purtroppo non ho potuto usare l'online, non so se voi... No, io non l'ho provato. Devo dire che a me sta piacendo un po' meno che a te. Cioè, lo trovo fatto molto meglio come gioco. È molto più divertente da giocare del primo. E probabilmente alla fine è questo che conta, per carità. Sì, anche molto... Si controlla meglio le armi, le meccaniche. È anche molto più sparatutto prima persona. Esatto, però. Sicuramente più sparatutto. Sì. Sono divertenti le parti in cui provi a... Cioè, metti le sorelline lì a prendere l'ada, me le devi proteggere, piazzi le trappole, eccetera. Poi non so se avete visto che anche la storia è forse un pochettino più convincente. Ecco, io invece volevo proprio dire che sotto questo punto di vista non mi sta convincendo proprio per niente. Lo trovo proprio moscio. Invece a me la storia è appassionante. Comunque consiglio la lettura di... Dov'è che è? Su Ars Ludica scrive Tagliaferri, se non sbaglio. Anche su Parliamo di Videogiochi. No, ma credo che fosse su Ars Ludica, va benissimo, anche Parliamo di Videogiochi, però no, ha fatto una recensione in due parti di BioShock 2 su Ars Ludica e secondo me è interessante, al di là del fatto che più o meno lo descrive... secondo il punto di vista che è anche mio, ma al di là di quello dell'essere d'accordo o meno, secondo me sono due belli articoli, li consiglio. Quindi abbiamo detto tutto su questo bellissimo gioco. E andiamo a Mass Effect 1, che ho finito due settimane fa più o meno. Apparentemente era un gioco che avevo lasciato da parte aspettando un PC migliore. Ora che ce l'ho giocato, effettivamente mi è piaciuto tantissimo. All'inizio pensavo fosse un clone di KOTOR, invece onestamente mi sono ricreduto e mi è piaciuto parecchio. Dico, non voglio andare ancora avanti. Ma voi dite KOTOR o KOTOR? KOTOR. Ho sempre detto KOTOR. A seconda del momento. Ma invece adesso ho iniziato e quasi finito Mass Effect 2. Ecco, questo denota la quantità di tempo libero che è disponibile. Sì, perché non avevo letto. Adesso che l'ho iniziato, effettivamente sono fermo all'ultima missione da 3 giorni. Adesso che ho riniziato le lezioni. Comunque, allora, intanto rispetto al primo hanno eliminato quelle cose schifosissime di dover scendere su ogni pianeta con la macchinetta, che mi ha fatto vomitare per buona parte del primo. Hanno cambiato anche quei minigiochi per bypassare le cassaforti e queste altre cose. Onestamente quelli non è che mi piacciono molto, questi nuovi giochi. Sono piuttosto semplici. Anche il modo di trovare le risorse sui pianeti, effettivamente, anche se non c'è più quella macchinetta, fare lo scanner è abbastanza noioso. Infatti gli ultimi pianeti li ho lasciati in tonzi. La storia mi è piaciuta, ma forse il primo ha qualcosina in più. Anche se... onestamente qualche colpo di scena in questo secondo c'è ed è pure bello rilevante, soprattutto alla luce del primo. Graficamente è stato fatto un lavoro sicuramente migliore rispetto al primo, lo stesso di 2 anni. Io fra l'altro mi sono stupito di come il gioco, nonostante il mio PC... Cioè, il mio PC è una belga. Ho ottimizzato. Però la mia scheda grafica non è proprio ottima. Ed è ottimizzato molto bene. Sì, cioè, sembra anche molto solido. Il primo non tanto. Perché io ho provato a giocarlo con il mio vecchio PC e non mi andava. Questo invece. Sì. Volete aggiungere qualcosa voi che l'avete iniziato? Beh, io l'ho appena iniziato da qualche giorno senza aver giocato il primo, quindi sono ancora in quella fase in cui mi leggo le pagine su internet. Tu non hai giocato il primo. Non ho giocato il primo, sì. Quindi leggo i riassunti della trama del primo, mi sto un po' immergendo in questo universo. Mi sta piacendo molto, è molto, la storia è molto interessante, le parti di combattimento. Allora, guarda, rispetto al primo sicuramente sono migliori, però... No, mi piace però il fatto che sia un gioco di ruolo senza tutte le stronzate tipiche dei giochi di ruolo. Beh, è fantastico che la maggior parte delle missioni si possono risolvere anche solamente parlando. A parte questo, che io ancora non ho notato perché andato così avanti, però anche il fatto che non ci siano... tutte quelle robe come insomma tabelle di statistiche. Oh sì, bello. Cioè, non sto giocando Mass Effect 2, però questa cosa che hanno tolto, che di eliminare le statistiche, te la appoggio completamente, anche perché poi si identificano i giochi di ruolo con le statistiche, che da un lato è vero, ma le statistiche non sono il punto, le statistiche sono un mezzo per farti fare la... erano un mezzo quando si giocava con i giochi di ruolo. Ma il punto, la cosa migliore che hanno fatto in questo secondo è l'eliminazione dell'inventario, anche questo che ho sentito pure Gazzo, mi pare che lo diceva su Rincast, che è la cosa migliore, perché arrivati nel primo alla parte finale ti ritrovavi 2 miliardi di oggetti di cui non te ne facevi veramente nulla. Io avevo... Faceva cagare l'inventario del... 2000 omnigel di cui non facevo proprio alcun uso. Vabbè, hanno eliminato le parti che non sapevano fare bene. Chiamali scemi. Un'ottima cosa, esatto. Comunque, alla fine, questo Mass Effect 2, diciamo, la parte della storia è relegata a poche ore. La maggior parte delle cose è il fatto di reclutare tutta la squadra. Non è storia quella. Insomma, cioè lui ti dà all'inizio questa missione, recluta la tua squadra e tu devi andare in giro per tutte le cose per reclutare queste persone. Ma alla fine dentro la storia c'entrano veramente poco. Cioè hanno i loro cazzi, tu vai là, unisciti alla mia missione. Li aiuti e poi si uniscono. Beh, però il bello del gioco di ruolo rispetto al tra virgolette semplice film non è proprio il fatto che la storia è anche i vari cazzi dei personaggi di contorno molto approfonditi. Sì, ma infatti dal punto di vista, allora, sì, la storia principale appunto come ho detto non è, però effettivamente le storie secondarie di tutti questi personaggi sono fantastiche. Scusa, è un po' il campo in cui il videogioco può essere un po' più vicino al romanzo piuttosto che al film. Sì, questo perché... sì. C'è la possibilità un po' di creare l'universo, di stare lì a raccontare piccole storie singole di personaggi, cosa che secondo me il videogioco sa fare molto bene, così come sa fare molto bene il romanzo. Sì, anche perché appunto ogni personaggio che prendi, dico, lo metti nella tua squadra e in un determinato punto del gioco ti chiede aiuto per risolvere uno dei suoi cazzi, dei suoi problemi familiari o con nemici. Quindi devi andare ad aiutare, questo è molto interessante. Perché sei un simulatore di posta del cuore. Beh, poi banalmente, cioè, il bello di fare questo è che ti affezioni molto di più ai personaggi e quindi poi quello che succede loro nella storia principale ha molto più peso. Ma lo sai qual è il problema che ho riscontrato maggiormente? È stato nella creazione della squadra quando dovevi fare una missione. Cioè tu ti affezioni così tanto a tanti di quei personaggi che poi al livello della squadra non sai chi mettere. Gianluigi, tu hai troppo amore dentro di te, questo. No, guarda che ti succederà. Okay. Soprattutto quando scopri certi personaggi sono veramente belli. Ma passiamo alle cose serie, chi ti sei trombato? Ma lo sai, mi sembra ancora... No, nessuno. Come nessuno? E che ci hai giocato a fare? In questo qua, nel primo sì, nel primo mi ero trombato Ashley. Questo qua nessuno. Fra l'altro, scusate ragazzi, secondo me, cioè io in questo gioco mi tromperei chiunque, non so perché, ma ci sono dei modelli poligonali delle donne che sono veramente belli, cioè sono veramente visi interessanti. Anche la vecchia nella astronave, ma pure quella, sì, perché no? Miranda, io penso che sia, cioè, il volto di Miranda l'hanno dovuto prendere per forza da qualche modello. Sì, quella è palesemente perché è troppo bella. Sì. A proposito di trombare, io passerei a Dante's Inferno. Sto caso da Andrea. Sì. Beh, hai centrato insomma il punto del infatti ho colto di Dante's Inferno. Cioè, al di là del fatto che, come si sa, è il fratello scemo di God of War, si gioca esattamente la stessa maniera, ma un pochino peggio forse, e, cioè, la sua cosa distintiva è appunto il fatto che è l'inferno rappresentato come questo posto pieno di gente sbudellata, gente che soffre e gente che tromba. Gente che tromba, però senza divertirsi molto. Questo è un po' l'inferno, in effetti. Esatto, infatti, cioè, al di là dello scandalizzarsi l'opera di Dante è stata selvaggiamente massacrata, però effettivamente come rappresentazione dell'inferno mi sembra credibile, cioè è un posto di merda. In più c'è questa cosa, vabbè, l'hanno buttata proprio sul trash. Beatrice ogni volta che appare fa vedere una tetta in qualche modo, e se, quando è morta è sempre nuda, ma anche quando è viva, comunque l'unica scena in cui è viva finisce con lei che fa vedere una tetta, e quando non fa vedere le tette si fa slinguare da Lucifer, cioè è tutto così, è proprio la trashata, anche se devo dire che io speravo andassero oltre, non ce lo si può aspettare, perché comunque insomma c'è sempre quel minimo di moralismo, però sarebbe stato vederlo ancora più trash, più... Cioè volevi che Dante arrivasse in motocicletta? Sì, ma un gioco di meno horror, le orge, i capri che si trombano, le anime. Senti, qui ho una curiosità, ma ci sono come boss Paolo e Francesca? Ci sono, ma fanno parte delle anime che puoi scegliere se salvare o condannare. In compenso fra i boss c'è per esempio il padre di Dante che, allora faccio qualche spoiler sul gioco, fra i boss c'è il padre di Dante che è questa specie di schiavista puttaniere che vuole scomparsi Beatrice. Sì, sì, è proprio è a questi livelli totalmente assurdo. No, ma poi c'è, per capirci, in alcuni cerchi esci portandoti dietro ovviamente una mossa speciale. Chiaramente dal cerchio dei lussuriosi te ne porti via una, che è questa specie di nebbiolina viola, che quando l'attivi c'è questa nebbiolina viola attorno che fa male ai nemici, e per tutto il tempo in cui attiva si sentono donne che godono. Cioè è tutto così. Certo che una nebbiolina viola tipo che come dire ti avvolge è un brutto segnale, non so se vi ricordate la pubblicità di qualche anno fa di una malattia. Effettivamente l'AIDS. Esatto. Però vabbè, è quasi interessante da questo punto di vista. Vabbè, è l'unico suo lato interessante, perché come gioco insomma non dice nulla di particolarmente nuovo, anzi secondo me ha delle parti anche abbastanza pallose. Ci sono le bolge alla fine che sono ste 10 stanze tutte uguali con le prove a tempo insopportabili. Tu Ferruccio, se non sbaglio, l'hai giocato? O... Ma neanche morto, guarda. No, perché vedevo che commentavi su TFP, però l'hai finito, dico. Io non ho giocato neanche il demo di... Ah, ok, no, basta, allora devo aver visto male. Sì, l'ho finito, tra l'altro, spoiler finale. Diciamo lo spoiler finale, perché questo, esatto, è terrificante. Alla fine, dopo aver salvato l'anima di Beatrice, ti sei redento e tutto, si vede l'ultimo filmato, tra l'altro i filmati computer grafica sono molto belli, va detto. C'è Dante completamente nudo, giustamente anche lui, si vedono proprio le chiappe pelose, che si strappa questa croce che ha cucita sul petto, esce dall'inferno e all'orizzonte appare il purgatorio e lui pronto ad andare sotto appare To Be Continued. Madonna santa. Però in realtà mi ha detto che non lo faranno, anche ci credo, poveraccio, andrà a spaccare il cazzo anche il purgatorio. Infatti, a parte che non è molto divertente un gioco ambientato nel purgatorio. Esatto. Il purgatorio è veramente noioso. Bene, direi di shrinkare un attimo i giochi giocati. O Dark Void ti è particolare, no, come posso, dire, posso dire che fa cagare. Ed è un peccato che faccia cagare, perché comunque l'ambientazione alla Rocketeer è carina e l'idea del jetpack è bella, cioè quando funziona è divertente, puoi scegliere se stare a terra, volare, entrare in modalità jet e fare i duel, cioè, però è veramente sviluppato col culo, poi sembra che a un certo punto hanno finito i soldi, alla fine all'improvviso così a cazzo arriva il boss finale dal nulla. Però in compenso c'è la voce di Nathan Drake. Ma il protagonista è Nathan Drake un po' più sfigato. Ma la versione americana, la versione inglese, la voce di Nathan Drake? Sì. Okay. Ma non so. C'è Nolan North che è in tutti i giochi mai usciti. No. Vabbè, sempre meglio che Ubaldi. Povero Baldi, che salutiamo anche se non lo conosco, però. Ubaldi non era lo zio Marrabbio? Mi pare di sì, ma soprattutto era Four di Ciao Ciao. Gesù mio, Gesù. Avrei voluto parlare del downloadable content di Resident Evil 5, ma mi ha paccato la persona con cui dovevo giocarlo. Io in singolo Resident Evil 5 non lo voglio neanche vedere. Quindi. Bravo, bravo, bravo. E invece Ferruccio, vedo Bayonetta nella scaletta. Cosa c'è? Che sono alla seconda tornata di Bayonetta, dopo una prima che rivela tutto il peggio. La seconda invece è divertimento puro, quindi io consiglio, se proprio dovete, insomma, giocatevelo guardando le orribili cutscene di questa storia incredibilmente senza senso, con personaggi ridicoli, anche insomma i vari... anche la protagonista non è che sia, vabbè, sì, comunque rigiocatelo poi con godendovi proprio il sistema di combattimento e tentando di migliorare il punteggio dei livelli, ed è veramente tutta un'altra cosa, un grandissimo gioco. Ma comunque i filmati puoi saltarli anche la prima volta, eh? Non è che... Sì, però scusa, se sì, tu però, non hai, se senso... tu cioè servono anche a dare un pizzico di contesto, sì, sì, che non viene dato, però non lo so. Ma rispetto ad un Devil May Cry, come lo vedi? Almeno Devil May Cry, non lo so, mi sembrava... parli dal punto di vista della storia? Diciamo, in dai, generale, cioè, come gioco e come... Io ho giocato solo il primo Devil May Cry e dal punto di vista della storia mi sembra un po' la stessa... Cioè, mi sembra si veda abbastanza che l'ha fatto lo stesso tizio. Eh sì, però, non lo so, Devil May Cry... mi dava meno fastidio la storia, forse era meno lunghe le cioè sì, era meno invadente la storia, però sì, anche il personaggio, il modo in cui si atteggia, super spaccone, sì, è praticamente è Dante uguale meno. No, però come gioco in sé è un miglioramento di quel tipo di action lì. Io su Devil May Cry 3 ci ho perso veramente qualcosa come 6 o addirittura 9 mesi, veramente un'ossessione, ci ho giocato allo sfinimento, però questo è probabilmente migliore, sì. Sai cosa? È bravo a farti venire voglia di giocare bene, cioè ti premia se fai le combo, perché comunque c'è quella storia del Witch Time che si attiva, tutte queste cose, cioè un po' meno solo per fare il punteggio. Sì. Ah, però c'hai quei time events peggiori della storia del videogioco. Madonna. Imbarazzante, veramente, io non capisco come un controllo qualità. Quelli di Fahrenheit sono peggio. No, ma qui c'è, cioè, compare un tasto per un quarto di secondo... E se non lo premi, muori, cioè perdi l'intero, vero, sì, perdi il credito, quindi veramente indecente, indifendibile. Comunque te lo trovi a giocare una seconda volta, quindi tutto sommato. Sì, probabilmente anche una terza. Bene, bene. Ma è molto divertente da giocare se ti piace, insomma, il sistema di gioco. C'è per PC? No, non c'è per PC. No. Io invece ne approfitto per chiudere la cosa dei giochi giocati con Silent Hill Shattered Memories, che peraltro in versione PAL uscirà lo stesso giorno di V-Rain, astutamente. Comunque il gioco l'ho giocato su Wii. Come l'hai giocato su Wii, se deve ancora uscire? Avevo preso la versione americana, che poi prendo la versione italiana e che sì, poi... Sì. peraltro ho iniziato a giocare la stessa sera che ho giocato al demo di Heavy Rain, appunto, e la differenza tecnica è imbarazzante. Ma a parte questa cosa che è risaputa, è un gioco che secondo me o ti piace veramente tanto per l'idea che hanno avuto, o ti fa letteralmente cacare. A me è piaciuto molto, perché più che un gioco è proprio un'esperienza, perché al contrario dei precedenti Silent Hill, qua non spari, non ammazzi nessuno, non c'è un combattimento che sia uno, tutte le parti con i mostri sono... tu sei obbligato a scappare, e questo ho letto su internet che è stata la critica maggiore, perché in pratica c'è chi diceva che durante queste fughe, che sono praticamente pilotate, tu hai 2 o 3 porte per ogni stanza dove tu devi correre velocissimo, e la cosa peggiore che ti può capitare è che ti perdi durante questa corsa. In pratica questa corsa viene effettuata nella parte, diciamo, di incubo del gioco, come tutti i Silent Hill, soprattutto il primo, per questo è un remake del primo. C'è la parte, diciamo, normale e la parte di incubo, e la parte di incubo è, appunto, invece di esserci, come dire, grate di metallo e sangue, c'è ghiaccio che crea dei corridoi, e tu devi correre come un pazzo, perché sennò i mostri ti prendono e ti fanno soccombere. L'unica cosa che puoi fare è scrollarteli di dosso. Queste parti qua collegano le parti di gioco normale, dove c'è un minimo di esplorazione. Peraltro a livello sonoro è veramente terrificante. Io lo stavo giocando con le cuffie la notte, a un certo punto mi giro e ci sono dei rumori atroci, perché ogni volta che ci si avvicina in un punto dove c'è un indizio, ci sono delle scariche elettriche, non c'è più la radiolina ma c'è il cellulare che può fare le foto, e ovviamente con le foto cosa fotografi? Fantasmi. E io appunto, però prima di poter fotografare fantasmi, si sente questa scarica continua rumorosissima, e in lontananza ho sentito il piangere di un bambino, tiro sulla cuffia ed era mio figlio, mi sono cagato. cagato sotto, ho sentito il piangere, ho detto, minchia ragazzi, ma che suono fantastico. Comunque, a parte questa cosa, insomma, allora, la parte esplorativa è fatta molto bene. Cioè, fatta molto bene, non c'è tantissima roba da fare, ma è un'esperienza sonora, visiva, assolutamente coinvolgente. Però, scusa, io una critica che ho letto è il fatto che, essendo così separata la parte esplorativa da quella di combattimento, tu comunque sai che nella parte esplorativa non può succederti nulla e scema un po' l'atmosfera. Ma in realtà, se tu ti fai coinvolgere e sai che in certi momenti, cioè che tu gli indizi li trovi e ascolti le storie, perché ogni volta che trovi un indizio ti arriva un messaggio vocale sul cellulare che ascolti, e sono tutti messaggi vocali che ti raccontano una storia. Quindi se ti fai coinvolgere, secondo me è molto bello. Se non ti fai coinvolgere, effettivamente c'è, cioè, oh, vado in giro con la pila, vedo il fantasma, lo fotografo, scappo dai mostri, il gioco è finito. L'altra cosa che mi è piaciuta molto è che il gioco inizia con il protagonista, cioè te stesso, visto che, insomma, in prima persona, che è dallo psichiatra e si sta facendo analizzare, e tutto il gioco in flashback. È veramente notevole, perché le decisioni che tu prendi durante la seduta di psicoanalisi si riflettono sul gioco. Se tu colori una casa in una certa maniera nel disegnino che ti fa fare lo psichiatra, vedrai quella casa colorata in quel modo. Se tu rispondi a certe domande a livello psicologico, sessuale, cose del genere, vedrai l'effetto nel gioco. Quindi secondo me è molto carina come idea. Poi sì, può non piacere proprio per niente, a me è piaciuto molto e lo consiglio. Posso fare un piccolo intervento? Certo. Allora, tu hai detto che sono, come in tutti i Silent Hill, Sigor, cioè sono nei sogni, no? È un sogno, diciamo. E c'è un sì, diciamo, ho detto incubo perché si trasforma tutto, non c'è più la nebbia, c'è la neve in questo caso. Quindi quando voi sognate e correte, riuscite a correre? Dipende no, dal sole. Il pavimento è come una specie di tappeto che non ti permette di correre. Se, sì, è una cosa bruttissima. Ci sono i sogni così, vabbè, poi ci sono anche i sogni in cui riesco a correre, dipende. Dovevi farla la puntata scorsa che c'era Valeria. È vero, porca. No, ma credo che il motivo sia che c'hai le gambe avvolte nelle coperte. Esatto, sì. Sì. Sì, sì. Va bene. Scusa, cos'era questa domanda, dove volevi essere? Era così, per rendervi partecipi dei miei problemi. Evito di parlare di GT Racing per iPhone, che comunque non è un bel gioco, quindi non no, perché siamo strettissimi con i tempi. Io, sinceramente, cosa dite? Saltiamo il consiglio di Gigi? Sì, saltiamo sì, così. Beh, vi consiglio Wolfman, okay, ma discreto. Perfetto. Io consiglio Moon. Tu, Ferruccio, hai qualcosa da consigliare? No. No. Ok, perfetto. Passiamo alla posta. You've got mail, baby, yeah! Allora, Riccardo Strom, che ci aveva già scritto due puntate fa, poi io ovviamente me la sono dimenticata, la lettera, ci chiedeva, vabbè, se non c'era passata per la testa di provare a fare una rubrica sui giochi old school. Noi ci siamo inventati questo, correva l'anno, che più o meno, insomma, una cosa simile, e invece ci voleva chiedere che, è lui stupido? Cioè, allora dice, sono io stupido? È normale che preferisca Morrowind rispetto a Oblivion? Lo trovo molto più avvincente come trama e queste ambientazioni rispetto al quarto titolo Bethesda. Anche a me era più, io l'ho giocati pochissimo entrambi, però effettivamente anche a me Morrowind mi sembra più completo. Che dite voi? Mai giocato nessuno dei due. Perfetto. Io okay. Non li ho giocati, ma non è la prima persona che sento dire una cosa del genere. Comunque, Morrowind ce l'avevo, ma non l'ho mai toccato. Comunque c'è anche da dire che, anche se è normale che preferisca Morrowind rispetto ad Oblivion, questo non esclude che sia comunque stupido, eh. Cioè, può sempre essere, sì. Ma sempre a gusti. Ciao Riccardo, lo salutiamo. Invece la seconda mail del giorno è di Fede, immagino Federico, che ci chiede un consiglio. Cosa ne pensiamo di V-Rain? A lui era piaciuto molto Fahrenheit, nonostante la trama un po' assurda, mezzo Dragon Ball, mezzo para, che vuol dire paranoia, sarà, paraculo, boh. E poi devo comprarmi la PS3, che giochi mi potete consigliare? E poi subito dopo mi aveva scritto, perché io gli avevo detto un paio di esclusive, per quanto riguarda non esclusive, tipo Dante's Inferno, Bayonetta. Allora, prego, chi vuole partire su Heavy Rain? Cosa ne pensiamo? Io lo voglio, punto. Io l'ho preordinato, sto aspettando che mi arrivi. Io dovrei vorrei, ma non c'ho soldi. Io dovrei essere riuscito a elemosinarlo. Perfetto. Quindi, caro Federico... E poi passa, me lo basta. Dovrei, magari mi hanno detto una balla. Ma lo spero per te. Sembra. Poi, ovviamente, come giochi da consigliare, come esclusive, Little Big Planet, Uncharted 2... Infamous. Infamous, anche secondo me, però fasse. E God of War che sta per arrivare. Abbiamo detto God of War che sta per arrivare. E... Ma lui ti ha chiesto le non esclusive, poi. No, lui le esclusive prima, e poi come non esclusive, beh... Yeah, Dante's Inferno, Bayonetta. L'unico che Bayonetta no, perché se 3 è una merda. rispetto a... Ah, è vero. Vabbè, però dai. L'unica no, ma se non ci ha giocato anche GTA 4. Ah, vabbè, sì. In genere. Passiamo alla mail di Flame, che appunto ci fa i complimenti perché siamo gli unici a non esserci piegati a 90 alle dichiarazioni di musica sulle JRPG e i giochi di ruolo occidentali di cui abbiamo parlato la scorsa puntata. E in realtà ci fa una domanda anche abbastanza, insomma, interessante, dove ci chiede: voi lavorereste sotto costo pur di vedere la vostra fama su un portale o una rivista tra le più importanti? Lui prende spunto dal problema che c'era stato l'anno scorso con GamePro, immagino. E secondo voi, quanto sono vittime e quanto responsabili della propria precarietà nel mondo del lavoro? La mia opinione, che penso darà più fastidio dell'idea di Kratos che lo succhia uno Space Marine, vabbè, è che non solo non vadano compatiti, per questo tipo di persone appunto che lavorano gratis praticamente, ma anche insultati perché hanno abbassato la soglia d'ingresso. Se uno accetta di lavorare gratis, io che pretendo uno stipendio non ho speranza di essere assunto. Inoltre stiamo parlando di persone maggiorenni, spesso laureate, che firmano contratti capestro senza leggerli o ignorano lo statuto dei lavoratori. Soprattutto con 500 euro mensili oggi cosa fai? Perché se vivi coi genitori è un bel surplus della paghetta del papino, ma se hai una famiglia da mantenere non bastano a fare niente. Personalmente tramuto casa, utenze e cibo, so che per meno 1200 euro al mese non mi conviene mettere la sveglia. Se qualcuno vuole rispondere, poi io ho la mia risposta. Secondo me... se lavoro. No, in qualsiasi cosa. Vabbè, ma qualsiasi cosa, se non ti pagano nulla o se ti pagano... il problema è che purtroppo è un problema della modernità, dell'Occidente decadente, perché si è arrivati a una svalutazione del concetto stesso di lavoro, per cui insomma c'è gente che lavora nei call center a tempo pieno, gli pagano 400 euro al mese. Il problema è più grande di quello della rivista e dei freelancer, sì, che infatti scrivono sulle riviste. È un problema grossissimo, quello della svalutazione del valore stesso del lavoro. Questo è drammatico in Italia, ma c'è un po' ovunque. Ma non ci si marcia un pochettino pure su questa cosa, diciamo? Sì, sì, certo. Nel senso, c'è poco lavoro, quindi quello che ti do te lo devi prendere, perché sennò... Sì, certo, perché essendo un mercato libero, essendo il mercato del lavoro, è logico che se c'è gente disposta a lavorare a poco, li paghi poco. Punto. Ma il fatto è che c'è gente disposta a lavorare a poco perché non vede altri speragli di possibilità di tirar su qualche soldo. Cioè, adesso io capisco che uno voglia essere pagato per il lavoro che fa, ma il discorso che per meno di 1200 euro al mese non mi conviene mettere la sveglia, e prima o poi ti conviene, perché cioè, il sì, problema infatti, è che prima o poi insomma i soldi li devi tirar fuori da qualche parte, quindi... No, però è vero che in alcuni settori non si sviluppano i talenti perché non li si paga, e quindi quelli passano a fare altro. Sì, sì. Ah, quello assolutamente sì, però cioè, nel senso, a parte il fatto che la maggior parte delle persone che accettano appunto di essere pagate poco con nulla, perlomeno nel settore questo qua delle riviste videogiochi, spesso sono o il ragazzino che, vabbè, è ovvio che, oh figata, scrivo sulla rivista, mi danno anche il gioco gratis, vabbè, lo capisco anche, oppure magari quello che fa tutt'altro nella vita e ci tiene, fa l'articolo ogni tanto. Però io, più che disprezzare quello che accetta lo stipendio basso, sarà anche la mia posizione, ma a me dà molto più fastidio colui che gestisce un sito, offre, sì. Eh sì, perché tu comunque gestisci un sito professionale, cioè ci guadagni su questo sito e alla fine sfrutti il lavoro gratuito di persone che sono oltretutto contente di farlo, e in un certo senso grazie a questo ottieni anche un vantaggio scorretto nei confronti di chi magari invece poco o tanto comunque paga tutto quello che... Guardate, io sappia, c'è un noto network di blogs che offre ai collaboratori, li pagano praticamente qualcosa come 1,50 euro a post, però siccome sono testata registrata presso il tribunale, vale per i 2 anni per diventare giornalista professionista, e quindi c'hanno un sacco di gente dispostissima a beccarsi 1,50 euro a post. Vabbè, però giornalista pubblicista diventi così. No, se fai 2 anni... No, i 2 anni servono per diventare pubblicista, per diventare professionista devi farti il praticantato di avere il contratto, cioè... È tutta un'altra cosa. Sì, ma basta che sia retribuito, credo che si possa fare. Quello è pubblicista. La cosa, fra l'altro, è abbastanza grave, perché io sono laureato in giornalismo e non so queste cose. Però... No, ma te lo dico, lo so per esperienza personale, per diventare professionista o ti fai riconoscere il praticantato, ma comunque stai facendo anche un'azione legale in un certo senso, o se no, se non hai il contratto non diventi professionista. E io sono pubblicista perché ho fatto i 2 anni di... Vabbè, poi lì sono le assurdità, perché ho fatto i 2 anni di... per diventare pubblicista, però i 2 anni li ho fatti da assunto, quindi in teoria sarei professionista, voglio dire, però. Vabbè, sono le classiche Italia, che bello. Però immaginate, sì, vabbè, questo fatto che ci sia la corporazione dei giornalisti. No, ma infatti, sì, ma quello è il solito discorso del... Concettualmente c'ha anche un senso, se vogliamo, però poi diventa la solita roba all'italiana. Sì, ma è un'istituzione istituita ai tempi del fascismo, e direi che è abbastanza indicativo. Abbiamo detto tutto, sì. Esatto, cioè. Beh, comunque sì, un discorso molto ampio che sì. Sicuramente sono d'accordo su, se uno ce deve avere, avercela più con chi sfrutta la cosa che con chi fa di tutto per tirar su qualche lira, oppure lavorare gratis per poi nella speranza un giorno di avere un contratto. Però insomma, scusate, con uno stage, una cosa del genere, insomma. Per chiudere con una nota di ottimismo, direi che secondo me questa è la cosa che porterà al crollo della civiltà occidentale, cioè la svalutazione del popolo. No, no, è possibile, è possibile. Ci troveremo tutti vestiti come i cinesi a fare cose da cinesi. Sì, probabilmente sì, e le faremo per i cinesi. Esatto, saremo noi i cinesi. Donna santa. Le nostre candele. Cioè, made in Moncalieri, va bene. Invece veniamo all'ultima mail, quella di Francesco Landini, che ci fa i complimenti e ci fa una domanda che gli gira, è da un po' che gli gira per la testa. Sbaglio o è da diverso tempo che non vengono annunciati titoli first party nuovi, ovvero nuovi nel senso nuove IP, lui dice. In particolare per 360, voi direte Alan Wake, sì, ma quello è stato annunciato 5 anni fa, e poi tutti gli altri sono tipo Crackdown 2, Halo Reach, sono tutti seguiti. Sony ancora qualche first party lo spara, tipo Heavy Rain. Ma questa politica fa bene alle console, o forse sono stati annunciati titoli dei quali non sono a conoscenza? Ciao Dave & Co, quindi qua non sei più il giustone Andrea, volevo solo dirtelo. Ci sarà un ospite nel prossimo episodio, c'è Ferruccio, quindi insomma. Sarei contento. Cosa? No, mitico, sarà contento Francesco di c'è un ospite. Ferruccio, sì, sì. Assolutamente, assolutamente. Piaccio a Francesco? Sì. Sei contento? Sì, sì, no, anche Francesco mi piace. Francesco, scrivici se ti è piaciuto l'ospite. E quindi cosa ne dite? Sì, io sono d'accordo, effettivamente per 360 ormai nuove IP, boh, non ce n'è più. Manca sempre il coraggio di buttare qualcosa di nuovo. Se, scusami, se sai che Halo Reach ti venderà 4 miliardi di copie, se sai che Crackdown 2 è un titolo che comunque può andare bene, chi te lo fa fare di buttare soldi su qualche IP nuovo? Secondo me, scusate, però ci sono due modi di vedere la cosa. Il primo è, c'è stata la crisi economica, quindi far uscire adesso un IP nuova è un po' rischioso. Esatto. Non è che si buttano i milioni di dollari così a cazzo, quindi da questo punto di vista è comprensibile. Poi c'è anche il fatto che storicamente Microsoft è stata un po' più concentrata su un numero ristretto di generi e di serie che coltiva e che fruttano tantissimi soldi. Sony magari è stata anche storicamente un pizzico più diversificata in queste cose, quindi anche questo si vede. Poi c'è stata la gestione del pelato, non mi viene il nome adesso, insomma Nosferatu, vi ricordate? Sì, sì, sì. Harrison, credo, no? Sì, sì, esatto. Quello era un visionario, ha dato il via a un sacco di progetti, fra cui anche Heavy Rain, che hanno fruttato poi nel corso degli anni. Ora vedremo nei prossimi anni come sarà Sony. Cioè, da un certo punto di vista, chi ha avuto veramente il coraggio di proporre nuovi IP sono state insomma Electronic Arts, sì, e in parte anche Ubisoft, che comunque insomma non sono andati benissimo, però comunque Mirror's Edge e Dead Space erano ottimi giochi, il nuovo Prince of Persia e Assassin's Creed tutto sommato sono gioconi, anche se possono non piacere, quindi sì, c'è da dire che insomma in questa generazione è mancata anche Nintendo, che comunque col GameCube qualcosa di nuovo aveva proposto. C'era Luigi's Mansion, Metroid, vabbè, era un recupero, ma era alla fine una non cosa. Non è vero, ci sono un sacco di giochi nuovi. Esatto, sì, sì, ok, mai... vabbè. Fanno schifo, però. È l'ottica nostra, tra virgolette. Poi per carità c'è Wii Music e Wii Sports, però insomma, penso che... E lascia stare che Ferruccio è un fantastico. Ah no, chi ce l'aveva? Ah sì, aveva il coso di Barbie, che era. C'era Ferruccio. A parte Gatsu, che mi ha regalato per il compleanno, no, per Natale mi ha mandato un gioco di Barbie. Quello è un nuovo IP fantastico che era un grande successo. Ma è, come si dice, è first party? Perché no, vedi. Però scusate, Electronic Arts su Wii ha fatto anche EA Sports Active, che sì, è veramente un bel prodotto. Sì, però qua lui chiedeva proprio specificamente first party, per cui Nintendo, Sony, Microsoft. No, lui diceva soprattutto 360, effettivamente 360 non c'è nulla. Tra l'altro, sì. Anche sì, perché 360 first party non c'è più nessuno. Cioè, nel senso, si sono comprati i brand e loro non ne sviluppano. quindi... Sì, e ancora si continua a dire che la lineup 360 è migliore, che è una cosa un po'... effettivamente non vedo... ma veramente, cioè, ultimamente... effettivamente che non esce qualcosa di nuovo su 360. Ma è una di quelle cose che si dicono per inerzia, no? Cioè, veramente non esce qualcosa di nuovo, boh, cioè, un anno. Nel giro di 4 mesi per PlayStation 3 vengono sparati fuori Uncharted 2, Heavy Rain e God of War, che mi sembrano 3 titoli della Madonna. Sì, sì. 360 c'è solo Forza di roba recente, no? Sì, che peraltro è opinabile come titolo, a mio avviso. Vabbè, però insomma è un grosso titolo. Sì, sì, sono anche quello, sì. Sì, sì. Anche perché Mass Effect, Left 4 Dead sono anche per PC, quindi. Sì, però no, me lo metterei, Mass Effect 2 lo metterei comunque, anche se c'è per PC comunque è un... Sì, ma ti è venduto tanto? Boh. Non lo so. Bene, allora siamo giunti alla fine di questo episodio sesto, per dirla tipo Papa, e noi ringraziamo Ferruccio Cinque Mani che oltretutto si è sorbito un sacco di interruzione a causa del sottoscritto. Ricordiamo ovviamente singleplayercoop.com. Sì, e sì. Ferruccio, dici, saluta se vuoi salutare. Sì, io se potete, proprio alla fine vorrei, se mi lasciate 10 secondi, vorrei chiudere così. Quindi saluto per adesso, grazie a tutti, è stato un piacere essere ospite, grazie. Grazie poi... a te. Allora, salutiamo tutti, fanciulli, salutate qualcuno? No. No. Perfetto. Allora, un saluto a tutti e lascio il finale a Ferruccio. Sì, stasera sono qui per dire al mondo e a Dio, Italia, amore mio. Io non mi stancherò di dire al mondo e a Dio, Italia, amore mio. Come sempre, i riferimenti del Tentacolo Viola sono il blog, iltentacoloviola.splinder.com, dove potete trovare il link alla nostra pagina Facebook e diventare fan, Twitter all'indirizzo twitter.com/iltentacolo e iTunes, dove ci potete trovare con chiave di ricerca il Tentacolo Viola e abbonarvi al nostro podcast. Se volete scriverci, la mail è come sempre iltentacoloviola@gmail.com. Noi cercheremo di rispondere in maniera più o meno sensata. Un saluto a tutti, alla prossima, grazie, ciao!